Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, sono qui in Nuova Zelanda dal 2003. Mi rompo i coglioni! Mi rompo i coglioni! Parlo come Donato da Varese. Se non sento la zanzara tutti i giorni, muoio di noia! La zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane! Quando ascolto la zanzara godo, ma quanto cazzo godo. Peccato solo per quel cazzaro di Parenzo, ma a fondo nel godimento c'entra anche lui. Sì, perché l'Italia, soprattutto in alcune zone, per carità, ma io dico l'Italia, perché l'Italia è irrecuperabile, perché non ce la si può fare, non ci si può arrivare, cioè come si fa a cambiare la mentalità, soprattutto in alcune regioni d'Italia? Adesso, caro Parenzo, ti faccio ascoltare questo signore che, sì, per carità, non è un... non c'è scritto delinquente sopra, non c'è ancora la fedina penale sporca. Si chiama Alfonso Cesarano. Cosa fa questo signor Alfonso Cesarano? È uno che gestisce le pompe funebri, sì, e intorno al business delle pompe funebri ci sarebbe da discutere, naturalmente, no? Spesso ci sono cordate, i rapporti con gli ospedali, i rapporti con le amministrazioni, speriamo, pubbliche. Speriamo di averne bisogno il più tardi possibile, comunque. Sì, però purtroppo tutti ne abbiamo bisogno prima o poi. Per un motivo o per l'altro. No, ma non per noi. Noi quando noi ne avremo bisogno... Non ce ne renderemo conto. Ascolta, no? Tu non vorresti un funerale, visto che il signore in oggetto, no, io non voglio nessun funerale. Il funerale di Casa Monica, siccome non sopporto i funerali, non vorrei nessun funerale. Come, con i cavalli? Nessun funerale. No, ma che me ne come frega? No, nessun funerale. Voglio essere poi la Paradiso tumulato. La Paradiso che ti legge la cosa. La Paradiso non la conosco. No, ma Maurizio Paradiso che ti legge. Tumulato in un piccolo cimitero, voglio essere, in un piccolissimo cimitero. Con i cani che fanno la pipì, magari anche. Vabbè, ma quello non me ne accorgo, come me ne frega. Non è quello. Voglio essere tumulato in un posto molto molto lontano, in modo che veramente se uno ci vuole arrivare ci arriva, perché vuole arrivarci. Vuole arrivarci. Dunque non in una grande città, né a Milano né a Roma, in un piccolissimo cimitero lì al freddo, dimenticato da tutto e da tutti. Vabbè, detto questo, che non ce ne frega niente, mi devi come al solito interrompere per i tuoi incisi, per le tue parentesi, sì, no? Sì. Alfonso Cesarano. Alfonso Cesarano è un signore che è implicato in questa storia di, no? Pare che sia accusato di scambio di voti. Sì, lì come giù quarto. A quarto, sì. Come no? A quarto è uno che pare, sembra, raccoglie i voti per alcuni personaggi politici. È stato raggiunto dal signor Formigli, dalla trasmissione Piazza Pulita, ed è uno di quelli che avrebbe portato la famiglia Cesarano i voti anche ai 5 Stelle a quarto, cioè fate votare anche quelle di 80 anni, no? Per i 5 Stelle. Sentilo, tutto finito. Ma lei è in grado di mobilitare dei voti? Vengono delle persone qua che sono amici. C'è qualcuno del PD? Sì, Chianese. Che vuol dire c'è qualcuno? C'è una qualche persona... amico tuo che sta candidato per la regione, per la provincia? Sì. Dire qualcuno del PDL? Sì. Dire qualcuno dell'NCD? Sì. Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle? Sì. Chi c'aveva nel Movimento 5 Stelle? Io a quarto, nessuno. Lei ha mai avuto rapporti con camorristi? Ma rapporti di lavoro? Se vuoi i rapporti, vai al cimitero di Marano e vedi quanti camorristi sono morti, quanti sono i cimiteri di Napoli, i cimiteri di Quarto, e si ha portati. O di se l'ho portati, c'è tutto a che fare. non in procura. Cosa vuol dire boss? Boss di organizzazioni criminali stanno coppie giornali. E gli ha fatto i funerali a questi? Allora, lei? Ha fatto i funerali a funerali tutti quanti. Il problema è un altro. Se la legge non vorrebbe che noi ditte, non soltanto Cesaranno, tutte le altre ditte, dovrebbero avere a che fare con questi personaggi, chiamasse l'esercito italiano con il camion e facessero un funerale. Lei mi dice, tu hai fatto funerale o boss? Il boss è morto. Beh, su questo però non ha tutti i torti, il signor Cesaranno. Una volta che è morto il boss, uno fa il funerale ai boss. Però certo dipende poi da come, no, pare che poi questo qua o chi, uno della sua famiglia abbia fatto a botte con altri, perché controllano pure il territorio, anche i funerali controllano, capito? Controllano anche i funerali. Anche la morte, anche il dopo morte. Vabbè ragazzi, oggi si è candidato un mio amico, lo devo dire, Roberto Giachetti, a sindaco di Roma per il Partito Democratico, area renziana. Io per fortuna non voto a Roma, non me ne frega assolutamente nulla. Devo dire una cosa, signor Giachetti, che si è candidato alle primarie, alle primarie di nuovo al Partito Democratico. Ma poi non c'è nessun altro però. Fino a poco però tempo c'è lui. Non c'è nulla, non c'è nessuno. Qualcuno si candiderà sicuramente, tanto per dare una parvenza di primaria a quello che succederà. Devo dire la verità, fino a poco tempo fa escludeva al 100% la candidatura. Per esempio, diceva a un certo punto su Twitter, le do una notizia rispondendo a un signore: non ci punto per nulla, sindaco di Roma, a tutti è noto che non ci penso per nulla, ora anche a lei. E trattavasi del primo di ottobre, del primo, dunque 2-3 mesi fa. Vabbè, uno può cambiare idea poi, è stato convinto da Renzi, da quello che è successo, Marino, eccetera, eccetera. Comunque, fino a poco tempo fa diceva: io non ci penso per niente, penso solo alla Roma, diceva. Ho deciso di partecipare alle primarie per il sindaco di Roma. Ci ho messo un po' di tempo, lo confesso, e non solo per un pizzico di paura che credo sia naturale, ma soprattutto per una grande forma di rispetto nei confronti di un impegno che so sarà immenso, gravoso. Vabbè, poi qui cominciano le parole inutili, ma quelle di tutti i candidati naturalmente, non solo di Giachetti. Dove andiamo, caro Parenzo? Maratoneta come te, no? Sì, ha fatto un sacco di maratone, sì, è vero, ha fatto un sacco di maratone, non so se le faccia ancora, poi si è infortunato a un certo punto, cadendo pure alla Camera dei Deputati una volta, è caduto e si è fatto male al ginocchio, una cosa incredibile. Tradizione radicale, liberale. Ma che c'entra la tradizione radicale? Libertaria, diritti, donne e aborto. Aborto. Non credo che l'aborto sia un tema per la campagna. Divorzio, obiezione di coscienza, esperanto, pannella, abbiamo detto libertà. Per il Comune di Roma abbiamo detto libertà. Ma diritti, che c'entra adesso? Abbiamo detto democrazia, Dalai Lama. Porteremo il Dalai Lama niente, a Roma a dire libertà, libertà. Insieme a Roberto, libertà. Insieme a Roberto. Allora, io impazzisco per questa cosa dell'utero in affitto, no? Adesso non è un tema popolarissimo, per carità, l'utero in affitto. Sì, è importante, però riguarda una minoranza di persone, non è che la gente per strada parla dell'utero in affitto, non ne parla nessuno, per fortuna. Però mi fa impazzire quelli che dicono l'utero in affitto è la cosa più atroce che c'è. Ma io lo considero un semplice contratto. Poi l'utero in affitto è già una cosa dispregiativa. Dici l'utero in affitto, come lo chiami? Ci sono del... No, l'utero come si chiama? Mica dispregiativa. La parola utero non è dispregiativa. La parola affitto non è dispregiativa. No, l'utero in affitto sembra che... Come lo vuoi mettere? Sì, noleggio. È un modo per dire una porcheria, capito? L'utero in affitto è così, è. Non è una porcheria, è un accordo tra persone che hanno bisogno di denaro. Tra persone che hanno bisogno di denaro per campare, per vivere, eccetera, e persone che vogliono avere un figlio. Le persone che vogliono avere un figlio, omosessuale, a me non mi interessa, maschi, femmine, transessuali, froci, controfroci, non mi interessa. E le persone che vogliono avere un figlio pagano una signora per essere inseminata, per essere con il loro seme e per avere un figlio. Questa partorisce il figlio e poi dà il figlio a questi qua in cambio di denaro. In alcuni paesi è legale. E secondo me è giusto che sia legale, non è affatto una porcheria, non è affatto un orrore. Quelli che si scandalizzano poi, quelli che si scandalizzano hanno 100 famiglie, tradiscono, fanno qualsiasi cosa, si scandalizzano per l'utero in affitto. Mi fa impazzire questa cosa. C'è gente che si scandalizza per l'utero in affitto quando fa le peggiori cose nel privato. Allora, la questione del bacio a Baudo torna di nuovo. Ieri abbiamo intervistato la signora islamica, la ragazza islamica, ha detto che Baudo ha sbagliato, ha esagerato, perché non si integra attraverso un bacio. Vabbè, insomma, le sue spiegazioni sul rifiuto. Un tizio che si chiama Picardo, adesso non mi ricordo. Picardo dell'associazione Vatta la Pesca degli Islamici. È di Milano, signor Picardo. Dice che il bacio di Baudo è un atto di prepotenza e paternalismo. Ragazzi, però non ce la faccio. Ha fatto un atto di prepotenza, allora. Pippo Baudo, perché voglio dire, come ti permetti di andare a baciare una donna che non è, voglio dire, questo è un atto, secondo me, ma guardi che a noi non viene neanche in mente che un uomo però non voglio possa dire, baciare una è donna, è un atto di prepotenza, di ma noi non è prepotenza, perché prepotenza se tu lo ma sai, ma certo, ma come ti permetti, ma prepotenza ma se tu lo sai, ma lui si sarebbe mai alzato a venire a baciare me, ma questo è un atto di paternalismo e di prepotenza nei confronti no, di una nel donna nostro costume, nel nostro costume, se noi ci incontrassimo, non baciare. Siamo alla follia. A parte che sotto ho sentito la voce di una persona che è nostro ospite. Grande combattente. Però, ma come si fa a dire un atto di prepotenza? Quello è un atto di gentilezza. A noi va bene così. È una nostra usanza. Quando uno vuole, no, dimostrare affetto, solidarietà a una persona, ci si avvicina e qualche volta uno tenta di, cioè, va là per baciare, per abbracciare una persona, è una cosa normale. Non abbiamo tutte queste follie. No, la donna non può essere toccata da un estraneo. La donna non può essere toccata. Non abbiamo queste fisime, queste follie totali. È un atto di come dire, di normale nel mondo occidentale. Poi, per carità, uno può essere, può rifiutare il bacio, assolutamente. Senti poi che dice il signor Piccardo. Paolo non può immaginarsi che sia vietato. Sarà libera la donna musulmana di decidere da chi vuole essere baciata o deve essere baciata una ragazza italiana, da una mummia come Pippo Baudo. Forza! Da una mummia come Pippo Baudo, signor Piccardo. Alessandro Sallusti è con noi, buonasera, direttore del giornale. Buonasera. Bene. La mummia di Baudo, beh dai, su, esagerato. Ma guarda che c'è in queste parole che sembrano così di un argomento leggero, c'è una violenza... È un integralismo che conferma in pieno tutte le paure, i dubbi. Che, ma perché dire da una mummia come Pippo Baudo, dare un bacio è un atto di violenza, con quel tono, con quella rabbia? Ma come dire, da noi quando uno incontra una persona, Baudo non poteva neanche dargli la mano perché è un impuro, essendo musulmano. Sì. Secondo loro non poteva neanche dargli la mano. Ora uno è liberissimo di voler dare la mano a Baudo e di non voler essere baciata. Però... baciata come ci baciamo noi occidentali, di saluto, non di qualcos'altro, ma come dire, per scelta di libero arbitrio, non per dogma. Se è per dogma è la prova dell'inconciliabilità di due mondi. Sì, però uno pensa che non farsi baciare, ma certo, no, che ha diritto a non farsi baciare, ma no, però anche una religione può sembrarci, sì, strano, però, ma una donna religiosa islamica dice: mi faccio baciare solo da mio marito. Sì, ma però c'è bacio senza essere tacciata come donna dell'ISIS. C'è bacio e bacio, poi non è che quello la voleva baciare. Ma neanche la stretta di mano è possibile. Beh, no, infatti, a te piace un mondo, Parenzo, a te piace un mondo dove no, i musulmani diventano sempre di più e a un certo punto uno non si può nemmeno toccare per strada, cioè uno non può toccare, non può, cioè hai paura anche ma a fare, ma ti dispiace, ma che saranno fattacci, ma chi se ne frega, non sarà mica questo un problema mio, no, ma non sarà un problema, diventa un problema, bisogno di toccare le donne che trovo, ma toccare, che c'entra, ma scusami, no, vabbè, c'è il traffico. Poi torniamo con Sallusti perché vogliamo parlare Sallusti col traffico, ma che devo fare, ma se ho il traffico io che devo fare, dire Sallusti traffico bruttissimo. Beh, ho capito, però parliamo brutto, di una cosa brutto. Vabbè, brutto traffico veicolare. La Zanzara. Allora, con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti. In due parole, però, siccome abbiamo iniziato sulla questione dell'utero in affitto, che non è un argomento popolarissimo e chi se ne frega, però davvero anche tu pensi che sia una cosa criminale l'utero in affitto? Cioè che sia una roba, come dice qualcuno, addirittura da arresto, da codice penale in Italia? No, io penso... No, non mi permetto di dire che è criminale. Penso che mi piacerebbe vivere in una società dove i bambini nascono da un atto d'amore tra un uomo e una donna, e se non possono nascere da quell'atto d'amore non nascono. Cioè ci si deve arrendere di fronte? Ci si deve arrendere. Il fatto di comprarli, di affittarli, di farli fare da terzi, è un abominio. Cioè un figlio, un bambino non può crescere insieme a due uomini, secondo te, o due donne? Questo sì. Cioè può crescere bene o no? Oppure secondo te è veramente una porcheria, cioè una roba che non sta né in cielo né in terra e ci deve essere un limite, cioè... No, io penso che lo Stato, un bambino può crescere, ci sono bambini che sono cresciuti da soli e che hanno scalato la società, certo. Ci sono bambini che sono cresciuti col nonno e la nonna, e il problema non è che cosa il destino presenta al bambino, il fatto è che un bambino secondo me ha diritto di nascere tra un uomo e una donna, poi se la vita lo porta a finire in altre situazioni, benissimo, ma che uno Stato debba autorizzare legiferare sul fatto che un bambino può nascere anche in modi diversi, in contesti diversi, io lo trovo non coerente con la nostra società, con la nostra... Senti, esatto, tu secondo me più volte tu hai detto una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, te lo dico chiaramente, che è quella del fatto che se noi facciamo passare il matrimonio tra omosessuali, l'ha scritto anche oggi l'unione tra, tu l'hai ampiamente citato oggi in una trasmissione. Se noi permettiamo il matrimonio tra omosessuali, poi non c'è più alcun limite. E come dunque, la mettiamo con la poligamia, con la pedofilia tra un adulto e una bambina innamorata? Oppure addirittura tra se qualcuno un gatto, sì, se qualcuno gatto. Vuole sposarsi con un animale. Ma cioè, davvero pensi che autorizzare il matrimonio gay poi? Io devo fare una premessa perché sennò passo per quello che non sono. Io credo che ognuno ha diritto di amare e fare sesso con chi vuole, con un uomo, con due uomini, con tre donne, e lo Stato deve stare ben fuori dall'amore. L'amore è un bene che non è nella nostra disponibilità. Io non posso scegliere chi amare e se amarlo tutta la vita e se cambiare gusto sessuale, perché è un sentimento e i sentimenti variano. Quindi non solo non è nella mia disponibilità, ma non si può neanche legiferare sull'amore. Quindi libero amore in libero Stato. Dopodiché c'è un piano diverso che è lo Stato perché ha protetto la famiglia uomo-donna, mica perché aveva un interesse su, cioè perché aveva un interesse suo, perché siccome solo da un uomo e una donna lo sappiamo, possono nascere dei bambini, i bambini sono soldati e pagatori. Ma che di c'entra tassa. Questo, scusa, col fatto che se si apre al matrimonio, cioè se si equipara il rapporto sulla cadere questo punto fermo che lo Stato tutela il matrimonio soltanto perché è l'unico matrimonio che può dare dei figli e quindi dei pagatori di tasse dei soldati, una volta dei soldati, oggi dei pagatori di tasse, e quindi salvare se stesso Stato, garantire un futuro a se stesso. Cioè, se tu fai cadere quel principio e dici io devo tutelare chiunque si ama, chiunque si ama. E allora spiegami qual è la differenza tra un uomo che ama un uomo che ama tre donne, un uomo che ama quattro uomini, un uomo che ama il suo cane e che vuole lasciare la pensione di reversibilità al suo cane. Cioè, non secondo te se si equipara il matrimonio tra uomo e donna al matrimonio tra uomo e uomo, a quel punto poi qualcuno pretenderà di matrimoni tra uomo e animale. Spiegami qual è la differenza con la poligamia, nel senso che il matrimonio gay è uguale alla poligamia, cioè può aprire la strada alla poligamia. Certo, è una storia d'amore tra due persone dello stesso sesso, come può essere una storia d'amore di poligamia. Ma è la pedofilia? Se lo Stato si mette a tutelare l'amore invece che uomo donna in grado di procreare, quindi di io posso amare Parenzo e lo Stato deve, Parenzo e Cruciani e lo Stato deve tutelare questa unione a tre, perché se noi tre ci amiamo, ma c'è sempre un paletto, perché lo Stato poi mette un paletto che è quello dell'unione tra due persone, non tra tre, non tra quattro, non tra cinque. Ma spiegami perché deve mettere un paletto tra due, perché il diritto di tre persone che si amano è inferiore al diritto di due persone che si amano. Ma non esiste paese al mondo in cui la pedofilia, poi tu hai citato anche la pedofilia. No, esistono paesi dove la pedofilia e dove la poligamia è autorizzata dallo Stato. La pedofilia no, islamici, la pedofilia dallo Stato. No, no, nei paesi islamici non è come da noi. No, la poligamia è diverso. Ma la pedofilia è accettata nei paesi islamici. Nell'antica Grecia era accettata. Ma nell'antica Grecia ho capito, vuol dire che è possibile. Se io amo una bambina di 12 anni e questa bambina dice di amarmi, io vado da lo Stato e dico: signor caro Stato, noi ci amiamo, tu ci devi tutelare. Ed è la stessa cosa di un matrimonio gay, secondo te, alla fine? Non è che sto dicendo che è la stessa cosa dal punto però di vista, apre la strada. Che se l'amore chiede tutela allo Stato, tutti gli amori hanno diritto di chiedere tutela allo Stato. Non è che ci sono degli amori di serie A e degli amori di serie B. Beh, insomma, sì, c'è l'amore tra due persone, che, ecco, che è il baluardo della società, diciamo, moderna occidentale. Ma no, è un baluardo. Tutti noi amiamo più persone contemporaneamente. Nella nostra vita abbiamo amato più persone contemporaneamente, ma erano fatti nostri. Non è che andavamo dallo Stato a dire: guarda, io ho una moglie, tre amanti, e tu, siccome le amo tutte e tre, tutte e quattro. Ho capito, ma non succederà mai. Cioè, se cade la diga, perché, spiegami perché non deve succedere. Perché la legge definisce che non è possibile. Basta il ricorso al TAR del Lazio. Basta il ricorso del TAR del Lazio di una famiglia poligama, e il TAR del Lazio deve prendere atto che quello che deve tutelare non è più uomo o donna in grado di procreare, ma è l'amore all'interno di persone. È la stessa cosa con l'animale. Se io amo il mio gatto, a un certo punto ci sarà qualcuno che mi dirà: bene, sì, se ho autorizzato il matrimonio, se è legale il matrimonio. Adesso non dico il matrimonio, che le lasci la pensione, che lo Stato si occupi del mio gatto quando sono morto, perché io lo amo. E quindi lo Stato deve stare fuori dall'amore. Sì, ma ho lo capito. Stato però... a chiunque, che siano coppie omosessuali, ma lo Stato tutela... poligame, eccetera, eccetera, deve garantire attraverso una legislazione che questi signori, nel loro primato, si possano tutelare. Ma sì, vabbè, ma quello è un altro. Sì, sì. Ma sono fatti privati dei signori. Senti, non sono fatti dello Stato. Ti voglio dire un'ultima cosa. Sei ancora candidato o no a sindaco di Milano? No, io non sono mai stato candidato. Vabbè, ufficialmente, sei ancora in corsa o no? Ufficialmente. Sei ancora in corsa? Non sono mai stato candidato. Mi è stata chiesta una disponibilità a prendere a valutare la possibilità di candidarmi. Ho detto: a determinate condizioni prenderò in considerazione. Ma è ancora in campo questa ipotesi o no? Non vedo che queste condizioni si stanno realizzando. Però possiamo dire quante per possibilità certo ci sono che fai il candidato e non fai più giorni? Molto poche, sotto il 10%. Però possiamo fare una promessa. Sotto il 10%. Sì. Facciamo una promessa. Se vince Sallusti non succederà quello che la sinistra ha promesso per Milano, cioè al posto del Duomo una moschea, perché io ho letto che Pisapia vuole costruire al posto del Duomo una moschea, vogliono fare, guarda. Però sì, sarebbe... anche se ormai, come dire, la piazza è già stata conquistata. Ecco, ma chi sarebbe il migliore? Secondo te il migliore chi sarebbe? Il miglior sindaco del centrodestra, secondo te? Dai. Ma credo che ce ne possano essere. No, uno, dammi un nome tuo. Chi no, preferiresti tu? Non è questione, ma credo che Paolo Del Debbio possa essere un ottimo. E non lo vuole fare, però. Non lo vuole fare. Ma, Poi Feltri ti ha detto che non ti conviene perché non si guadagna un euro. Beh, sì, bisogna sempre dare retta ai consigli di Feltri, soprattutto in campo economico. ciao, a presto, ciao. Giornale Radio, ragazzi, torniamo tra pochi minuti, La Zanzara. Peccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché ne ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Io volevo proprio mandarla a fanculo, ma proprio con tutto il cuore. Allora ragazzi, giustamente mi scrive un ascoltatore e dice: io vivo in Spagna, qui i gay si sposano perché in Spagna hanno cambiato la Costituzione, vi assicuro. Appunto. Che gente che si accoppia con i cani per strada non ne vedo, e ditelo a Sallusti, ma è più o meno quello che gli abbiamo detto, cioè in paesi dove è stata introdotta anche l'adozione. Guarda, non mi pare, insomma, in Spagna è pieno di accoppiamenti di animali, di uomo e dave, ma non è vero, non ci sono cani, cioè, tigri. Non è che se uno introduce, certo, normale, nella città di Pisapia ad ogni angolo davanti al Duomo scene incredibili di uomini che si accoppiano con dei cani, ad esempio, è normale. Ma non è vero. Lo ha fatto Pisapia, no? Ma non è vero. Lo abbiamo scritto sul giornale. Ho capito, ma appunto a quello è il problema. Trombano con i cani a sinistra. Ma non è vero, non trombano con i cani a sinistra. Ma io non è che giudico, non voglio giudicare. Ma non trombano con i cani, assolutamente. Anche dentro al Duomo, peraltro. Ma non è vero, che secondo me è blasfema, però ormai fanno questa normalmente questa attività. Pisapia stesso è stato visto con un cane. Ma no, ma non è vero. Baciare un cane in bocca con anche i piccioni, normale. Vedi sempre questa sindaca Balzani che limona con i piccioni. La sinistra fa questo, normale. Allora, ragazzi, il punto è molto semplice. Per chiudere la questione, no? Per chiudere la questione. Poi uno può essere d'accordo o contrario, non è obbligatorio. Io sono a favore sia del matrimonio uguale a quello tra uomo e donna, identico, uguale. Basta cambiare una riga nella Costituzione, non tutte queste chiacchiere, anche noiose, devo dire, su i cattolici del Partito Democratico e le liste di proscrizione chiamate così da parte del sito gay.it, e la stepchild adoption che non si sa bene cosa voglia dire, e tutti questi distinguo che ci sono. Sarebbe molto semplice fare una cosa, fare una riga nel codice civile in cui si dice in maniera esplicita tutte quelle norme sono valgono anche per persone dello stesso sesso, punto e basta. Molto semplice, molto chiaro, senza chiacchiere, senza discussioni infinite. Avete il coraggio di fare una cosa del genere? No, non avete il coraggio perché non avete le palle. Non avete le palle, come hanno avuto in Spagna, naturalmente dal loro punto di vista. Poi uno si può opporre e combattere in Parlamento contro questa cosa, ma questo bisogna fare, non ste cose, la legge, la legge Scirinna, con tutte le discussioni che mi annoiano terribilmente. Sono annoiato da queste discussioni inutili. Non è nei paesi dove sono state introdotte queste cose, non c'è adesso chi vuole legalizzare, come dice Sallusti, la pedofilia, la poligamia, il matrimonio tra uomini e cani o tra uomini e animali. Non esiste una cosa del genere. Forse gli animalisti forse si battono per il matrimonio tra uomini e cani, non lo so, spero di no. Però non esiste una cosa del genere, perché c'è salvaguardato che cosa? Il rapporto tra due persone. Tra due persone, cioè uomo, uomo, donna, donna, uomo, donna. Questa è la storia, non c'è il rapporto a tre. Nessun paese al mondo potrebbe pensare alla legalizzazione di un rapporto a tre. Sarebbe anche, secondo me, un abominio. Chi vuole avere un rapporto a tre, e come sapete stiamo facendo una grande campagna di informazione, se volete, su queste nuove servizio pubblico, su queste nuove tendenze nella società. Vuoi chiedere il canone in bolletta adesso perché facciamo questa battaglia? Il canone in bolletta per Radio 24? No, quello no. Dai, 800 24 00 24. Federico, Roma, vai. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi. Vi ho contattato perché sono rimasto scioccato fronte all'affermazione che hai fatto in apertura di trasmissione in merito all'utero in affitto. Cioè, a mio avviso si va a comprare un jeans, si va a comprare una macchina, non si compra un bambino. Che differenza c'è a questo punto, escludendo il discorso del seme, andare in un campo rom e dare 100.000 euro a uno zingaro per vendere il mio bambino rispetto all'utero in affitto? Ma no, ma è completamente diverso. Ma che c'entra? Quello sarebbe illegale in alcuni paesi. Superficialità disarmante. Ma qual è la superficialità in questo caso? Questa è semplicemente la mia idea, non c'è superficialità. Che c'entra? Vabbè, per te è un abominio, per me no. Sono mediamente intelligente. E allora? Non vi considero Einstein. Perché chi è intelligente? È normale, è giusto comprare un bambino. No, ma sull'utero in affitto anch'io sono contrario, ma non c'entra nulla con quello. Comprare lo dici tu. Comprare lo dici tu. Una superficialità disarmante. Ieri parlavate di aborto così. Con una superficialità, non si parla mai dell'atto dell'aborto. Senti, amico mio, tutti sappiamo, un diritto acquisito ormai, pare, no? Tutti sappiamo il dramma dell'aborto, e adesso non torniamoci perché non me ne frega nulla di tornarci. L'aborto è una cosa legale che si può fare, secondo me bisogna assolutamente ammetterlo in uno Stato, e secondo me, ti ripeto, anche la pratica cosiddetta dell'utero in affitto, secondo me è semplicemente un do ut des. Ci sono tanti commerci nel mondo Ovviamente allora, più sono legali, più sono le... Ma è completamente diverso. Ma è diverso, non dire stronzate, Federico, dai su. La cosa che ha fatto Elton John potrà fare schifo. Potrà fare schifo a qualcuno il fatto di andare in India, non so dove. Ma andate ad adottarli, bambini, se volete parlare. Ho capito, ma se quello vuole mettere il proprio seme, ma se uno vuole mettere il proprio seme dentro una signora indiana, pagare 50.000 euro e dare 50.000 euro a questa persona che in questo modo fa campare la sua... Questo non è bello. Ma non è bello, per te non è bello. No, io l'ultimo ci sono tante cose non belle. L'ultimo in affitto ho seri dubbi pure io. Ma non c'entra nulla. Sì, grandissimi. No, no, ma più che grandi dubbi sarei formalmente contrario. Ma non capisco. Ma di che sei contrario? Seri dubbi formalmente. No, ma non so come si può impedire nel mondo, perché come hai fatto tu l'esempio, è ovvio che sono contrario, ma siccome nel mondo tu non puoi imporre a una signora indiana di non fare questa pratica, è evidente che purtroppo dovrai regolamentarla per non avere figli che non hanno un padre, no? Però se tu mi chiedi sei a favore, no, sei contrario, benissimo. Sì, no. Allora, si Federico, può bloccare. Non ho capito qual è il problema, Federico. Il problema è che non c'entra nulla. Non ho capito Federico cosa vuole. Non acquistate l'utile in affitto. Non acquistate i bambini mediante utili in affitto. Questo c'ha ragione. I bambini sono sempre... Fare i bambini è sempre un atto di egoismo, anche quando uno lo fa, c'è un pizzico di egoismo. Vabbè, allora no. Allora non vuol dire niente. Vuol dire che tu lo ottieni il bambino con l'utero in affitto o mettendo incinta o trombando la tua compagna. È un po' diverso, per me però, è la stessa cosa. No, è un po' diverso, perché come fai la donna che lo ha partorito apposta? Vabbè, quella là se ne farà una ragione, perché ha preso 50.000 euro. Fa campare quattro generazioni. Ma non è una macchina, non è una fabbrica di bambini. Questo è il punto che ti sta dicendo. Bisogna regolamentare questa cosa. Il giusto ascoltatore assennato. Federico, vuoi chiudere? Vi prego di essere meno superficiali. Ma che vuol dire? Qui sono idee, non è superficialità o meno. I fatti no, sono... dai, vabbè, tu sei il contrario, io no. Altri argomenti andate molto più in profondità. Paolo da Milano, no, la profondità qui non esiste. Paolo, Milano. Sì, ciao, parte che vi ho chiamato per altro, ma approfitto per... Questa è la radio, mica la Treccani. Paolo, vai. Sì, sì, certo, io sono d'accordo sul tuo affitto, anzi lo considero un'opportunità. Io sono a favore, per esempio, di tutte le pratiche del mitico indimenticato Antinori. Cioè, indimenticato mica perché è morto, cioè indimenticato nel senso che... amo le sue battaglie, cioè sono antinoriano in tutti i sensi, dai Paolo, su Giuseppe, Paolo. Intanto ti chiamo perché avevo quasi desistito, perché il mio argomento è molto più frivolo, purtroppo. Ma non c'è nessun moglie, argomento frivolo alto. Mia moglie insiste perché io ti saluti, per cui Mara, tua moglie, quanti anni ha tua moglie? 56, ma è una bellissima donna. 56 è una bellissima donna, ahimè, in che senso? Perché ahimè? Ahimè perché insiste perché ti saluti. Perché sei geloso, certo, giusto. No, non sono geloso, però. Ma 56 anni, tu quanti anni hai, scusa? Io ho 56 anch'io. Vabbè, ma insomma, qual è il problema, Paolo? No. Tua moglie vuole provare qualche emozione? Qualche emozione in più? No, questa te la scordi. No, è una domanda, ho detto vuole provare, ma non con me. Guarda che abitiamo vicino a dove trasmetti. Ma che c'entro io, scusa? Ma che a non tutti piace essere cornuti come te, e io capisco l'ascoltatore. Ma non è questo il punto, ho detto Paolo. Tu hai detto, hai auspicato. Ma è lui che ha detto una bellissima donna, non ho detto io. Dai, fatemi parlare di quello per cui vi volevo chiamare veramente. Guarda che è incredibile sta cosa, cioè, siccome tu nascondi qualcosa, tua moglie vuole veramente fare qualche cosa con altri uomini, ma non lo vuoi dire. Mia moglie mi ha semplicemente detto di salutarti. Vabbè, tu me lo dici così, poi è anche una bella donna. Perché, come... Sì. Perché, vabbè Paolo, dai, dimmi, adesso sempre queste cose mi mettete in bocca, sempre a parlare di sesso, dai, su. Dai, no, volevo parlare di tutta, pensa, ci sono cascato anch'io con voi, ragazzi, siete proprio malefici. Ascolta, io ti volevo parlare invece, perché vi incazzate tanto quando si parla di fumo passivo? Io faccio il veterinario. Sì. Ma sai che cosa sarebbe da chiamare? Il capo dei veterinari di Milano, per rinchiappettercelo un po', come direbbe l'amico Lino Banfi. Non c'è un capo, c'è un ordine. Ma dei vabbè, di Milano, il ma capo, ma dai, se vuoi se ti lascio in segreteria al telefono, ce l'ho. No, ma scusa Carlo, abbi pazienza, ma come si fa a fare una campagna per il fumo passivo? E i gatti e i cani e il fumo passivo? La campagna... Tu sei veterinario, davvero pensi che i cani e i gatti in casa possono subire gli effetti? Assolutamente. Possono subire gli effetti, ma chi se ne frega? No, ma non puoi dirmi così, perché poi vengono da me, io li devo curare, capisci? Ma tu perché curi cani e gatti che sono affetti da... Assolutamente. Ma questo non mi fa strano, ragazzi, però. Ma guarda che è così, non ce la faccio io, lo so che non ce la faccio, siccome mi dispiace quando non ce la puoi fare, veramente mi dispiace, e secondo me non ce la puoi fare per argomenti migliori, io ti volevo veramente sollevare dal dubbio. Cioè? I cani e i gatti soffrono di fumo passivo, gli viene il cancro, bronchiti croniche. Il cancro per il fumo passivo dei cani e dei gatti, no, non ce la faccio, dai, su. Non ce la fai vedere. Non è così, Carlo, dai, non ci credo. Ma perché se lo dice un medico, no? Paolo, scusami, perché c'è un altro Carlo da Milano in scaletta qui e non ti ho confuso. Guarda, capisco che è una battaglia difficile per me con te, però è così, di fatto ti... Ma io ci credo, se lo dice, certo. No, ma è così, non è che ti credere. Sì, però... fare addirittura una campagna di sensibilizzazione, no, come si dice, che io discorso. Odio le campagne. Allora, le campagne di sensibilizzazione vanno cancellate. Allora, premesso che mi stanno la sulle palle quelli che fanno le campagne di sensibilizzazione. Dai, su, ma ci sono tante cose più serie. Se uno c'è il fumo passivo, prima vengono gli uomini, poi gli animali, ma chi se ne frega se il cane si ammala di cancro. Dai, perché fumo? Se fumo me ne foto del cane, dai. No, ascoltami un attimo. Se da me arrivano i cani malati, ragazzi, di cancro o di polmonite o di bronchiti, specificatamente di bronchiti croniche. I cani e i gatti si muore, ragazzi, si muore. Ho capito, ma se hai un cane perché gli devi fumare addosso? Se il dottore ti sta dicendo che gli provoca, io veramente non capisco. Non le capisco neanche, poi a me gli animalisti mi stanno veramente tranquillamente sulle balle. Ma sei veterinario pure? Eppure, ma beh, giustamente ti capisco. Il medico non fa l'animalista, Ti capisco, per carità. Per caso sei anche cacciatore, Paolo, no? Purtroppo no, però sono pescatore. Sa, sei pescatore, che ammazzi anche tu i pesci. Sì, sei veterinario, ammazzi i pesci anche tu, ammazzi gli animali. Assolutamente, sì, certo. Capito? Li ammazzo e li mangio tutti. Ma certo. Vabbè, Paolo, comunque ci dai questa notizia. Il fumo passivo è un problema reale per gli animali. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, ciao, grazie, ciao. Grazie a te, ciao. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Tu ci fai digerire da anni parecchio, tu l'hai preso, l'hai portato nella tua trasmissione, vai in TV con le sue camicette bottom da, ma che andava prima, è uno sfigato, ma chi cazzo lo conosceva? Tu sei un delinquente perché l'hai reso un mostro. Allora ragazzi, non so se qualcuno ha letto questa mattina con orrore quello che è stato riportato da qualche quotidiano, cioè che in Europa ci sono persone che vanno a fare una specie di gita, in realtà è una missione, alle isole Figi per parlare del mare. Beh, 102 persone, 1.200.000 euro. Per mandare 102 persone, questo fa il Parlamento europeo, alle isole Figi. Io dico sempre, basta con queste cazzate. Siccome ormai il mondo si è dotato di mezzi tecnologici avanzati, tipo Skype ed altre cose per parlare a distanza, eliminare il più possibile, andare nei posti solo quando è necessario, soprattutto quando siamo noi a spendere. Poi le aziende possono fare quello che vogliono, ma siccome il Parlamento europeo, che già non fa una mazza dalla mattina alla sera, è mantenuto con i soldi nostri, ecco, ve ne saremmo grati. Evitate di mandare 102 persone alle isole Figi. Capitanà. Bisogna vedere i risultati di questi ma viaggi. Ma quali però? Risultati, dai. So che diremo una cosa contro corrente. Capitanati dalla signora Chieng, tra l'altro, capitanata questa missione dalla signora Chieng. No, beh, certo. Ma non è che la missione se l'è inventata lei. Beh, cioè, insomma, sì, ha contribuito a fare una missione. Anche vanno in vacanza, A parte che vanno trasversalmente destra e sinistra. Vanno in vacanza. Credo diciamo anche i 5 Stelle partecipano a queste missioni. Male, ma chi se ne frega? Allora, bisognerebbe semplicemente, come dire, quantificare i successi di queste missioni. Ma quali quindi successi ci non possono essere? Non è che le missioni essere, politiche di parli. Per sé non se... Ma allora uno dice aboliamo anche il viaggio di Renzi in Arabia Saudita. Dice boh, vabbè. Una missione commerciale, come se ne ma fanno tante. Ma tutte possono tanti essere missioni di tanti dai, tipi. Ragazzi, quindi... dai, su, ma per parlare del mare, dai. Ma non lo per so, parlare del mare. Mare. Dai, su. We'll be right back. Fulvio, provincia di Torino. Fulvio, provincia di Torino, vai. Sì, pronto. Dimmi, buonasera. Dimmi. In merito a quello che è successo a Pippo Baudo, volevo sottolineare un aspetto che ho vissuto in prima persona sul confine con l'Oman. Ero in cantiere, lavoravo normalmente come lavoro in giro per il mondo. Mi viene presentata un ingegnere donna totalmente in burca. Io sono rispettoso assolutamente di tutte le culture. Ingegnere donna in burca, sì. Sì, in burca, totalmente in burca, con diverse persone che lavoravano insieme a me. Io per educazione allungo la mano, la signora, quasi come dire, uso un termine corretto, risentita e inorridita, arretra di due metri, dopodiché un indiano che lavorava insieme a me mi dice non guardarla nemmeno negli occhi perché non puoi rivolgere la parola. Benissimo, questo solo è una piccola esperienza. Come non può rivolgere la parola? Questa fa l'ingegnere, deve lavorare in team e all'interno di uno staff e non gli può rivolgere la parola. No, e aveva un uomo insieme al quale invece... Questo dove? In Oman hai detto, mi pare di aver capito, no? Con l'Oman, sì. Bene, quindi non è... Oman, gli Emirati Arabi. Ma non è che sia dappertutto questa cosa qua, sicuramente non è dappertutto, guardi, dopodiché è abbastanza... No, cioè... però mi è dispiaciuto perché io in buonissima fede, poi avrò sbagliato io perché sbagliamo sempre noi. Però sono rimasto un po' così. Nulla di particolare è successo. Va bene, grazie. Carlo da Milano, vai Carlo. Ciao. Ascolta, guarda, una cosa però c'è da dire, che scherzare poi con la fame degli altri è una brutta bestia. È vero che Elton John è potuto andare in India e spendere 50.000 euro per avere un utero in affitto. No, magari anche di più, non lo so, ho detto no, 50.000 euro così. Però c'è anche da dire che non vedo tanta differenza tra Elton John che va là per un utero in affitto oppure per chi va magari in Thailandia per comprarsi una bambina. Effettivamente non la vedo tutta. Ma non è la stessa cosa, ragazzi. Poi, come potete paragonare? Uno può non piacere quello che ha fatto Elton John o fanno altri. O fa anche un senatore, c'è anche un senatore del Partito Democratico che il suo compagno, credo, sia andato in Canada a ingravidare una persona, che, diciamola così, in maniera brutale. Ma effettivamente. Ma non è la stessa cosa che andare in Thailandia e comprarsi una bambina. Ma come si fa? Ma quello nemmeno Di Nolfi lo sostiene. Cruciani. Forse sì, lui lo sostiene, non lo so. Cruciani, sai che cos'è? Avere allora innanzitutto l'utero della donna e dovrebbe essere la donna, soltanto la donna a potersi esprimere in questa faccenda. Poi il discorso è un altro, ammesso anche che possa passare una legge del genere in Italia, non lo so quanto siamo preparati proprio a livello culturale anche per affrontarla una questione del genere. Ho più paura che potesse diventare un marcimonio e non effettivamente... Vabbè, allora, ma che vuoi dire? Non ho capito, Carlo, cosa vuoi dire? Che ho forti dubbi su questa cosa. Hai forti dubbi sull'utero in affitto? Vabbè, abbiamo capito. Sì, Francesco, sì, da Verona, sì, dai, Francesco. Pronto? Sì. Dimmi. Io vorrei chiedere una cosa a Sallusti, che sostiene che non c'è, va tutte... Vabbè, comunque, è uguale, magari dai, ascolterà. E lui sostiene che va tutelato soltanto l'amore in grado di procreare. Sì. Quindi se due si vogliono sposare facciamo una visita medica e se sono sterili non li facciamo sposare? No, vabbè, adesso questa... No, non intendeva questo. Non intendeva questo. La coppia, lui dice, lo Stato deve tutelare... Lo Stato deve tutelare quelli che possono procreare, diciamo, deve trasformare i rapporti, diciamo, tutelati dalla legge... le coppie, ma il ragionamento è quello: se io sono sterile non mi posso sposare perché sono inutile. Non è quello. Comunque può arrivare fino a queste conseguenze anche, diciamo, no? Chi non è in grado di fare figli, se magari... arriva a dire che si possono sposare i gatti, arrivo anch'io a dire questa cosa, cioè. Sì, vabbè, provocazione per provocazione, dici tu. Va bene, Pier Giulio Bergamo. Dimmi. Ascolta, t'ho visto veramente seppellito nel cimitero di Consonno. Nel cimitero di Consonno, no, francamente non ho mai frequentato il cimitero di Consonno e sono ancora vivo. No, ma come era, voglio un luogo veramente tranquillo dove nessuno mi rompa le scatole, ok? E che nessuno abbia difficoltà anche a venirmi a trovare. A Consonno c'è un cimiterino che è stupendo. Ho capito, ne terrò conto quando sto per morire. Dico, cacchio, questo sta cercando veramente il top Vabbè, tu mi consigli il cimitero di Consonno. Il cimitero di Consonno è molto bello, poche anime, sì, per cui non litigate neanche tra ma voi. Ma io ce l'avrei un cimiterino dalle parti mie, dove c'è anche mio padre, per carità, dalle parti di Ficulle. È un piccolo cimiterino, ce l'avrei già in testa, però non escludo magari un cimitero al nord molto questo isolato. Questo è molto bello. Dunque, tu mi consigli un piccolo cimitero Consonno. Un piccolo cimitero con vista lago, sì, poi vista montane, d'inverno è bellissimo, e vedi tutte le grigne, è molto molto molto bello veramente. E poi è difficile anche un po' raggiungersi, nel senso che trovi la macchina che ti arriva su, no? Sì, è vero che tutta sta roba allunga la vita, però ragazzi... Cioè, beh no? Ragazzi, ma se questo no, dico, mi è vero che allunga la vita ma mi ha trovato un cimitero, però, che lo posso solo ringraziare. Guarda, ti vedo anche con la mitra, cioè proprio veramente adesso. Come con la mitra, scusami? Con la mitra sulla testa. Vabbè, ma non è che quando uno muore c'ha la mitra sulla testa, scusami. Vabbè, quasi papale, eh? Cioè... veramente una cosa papalina, io non farei una cosa semplice per tutti gli anni. Va bene, grazie, ma tu sei un agente delle pompe funebri, funzionario? No, no, no. Ho avuto questa visione, io viaggio per visioni. Ho visto questa visione... Hai avuto la visione di Cruciani morto con la papalina al cimitero di Consonno? 2000 anni io che cammino per visioni, figurati, e non vedo una visione per Cruciani. Va bene, ciao Pier Giulio, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora ragazzi, oggi è venerdì e allora, qualcosa dalla settimana, va, Zanzarology, Parenzo contro il senatore del Partito Democratico, com'è che si chiamava questo qua che non mi ricordo? Sonego del Partito Democratico, via! Zanzarology, antologia della zanzara. Pronto? Sì, senatore Sonego? Sì. Buonasera, Radio 24, salve, sono Cruciani. Volevo chiedere una cosa sulla Serracchiani, sul velo. Volevo capire perché lei è contrario al fatto che abbia messo questa specie di velo durante la visita di Stato. Ma per una semplice ragione, che è un'usanza che è stata che in Iran non c'è mai stata, è stata imposta con violenza dal regime teocratico, che non è il caso di assecondare. Cioè il velo secondo lei è il simbolo della violenza sulle donne? No, non è il simbolo, è una manifestazione materiale della violenza, perché esiste una casistica infinita in base alla quale le donne che non rispettano questa regola vengono frustate, incarcerate, colpite da getti di acido e cose di questo genere. Mi pare una cosa particolarmente paese. Se uno va là, sa che siccome è casa loro, si deve mettere, a parte che il velo è diverso dal burka, quindi si mette il velo per coprire i capelli. Come quando lei va in chiesa, uno si toglie il cappello, ma non mi pare una questione, mi pare di educazione rispetto al paese che ti ospita, nessuno obbliga ad andare là. Non è una questione di educazione, l'educazione non c'entra niente, è una questione politica e di libertà. Io sono d'accordo con lei. Qualcuno l'ha invitata in Iran, se uno va in Iran per fare affari, accetta le regole di quel paese, no? Lei mi sta dicendo che siccome pecunia non olet, i diritti umani ce li mettiamo in tasca. Che se uno va là, accetta le per fare quel che deve fare, accetta le regole di quel paese. Lei sta dicendo una cosa che non ha senso, ci pensi bene. Secondo lei poteva andare tranquillamente senza mettersi quel velo, non sarebbe successo niente? Ma io dico che le autorità occidentali devono cominciare a fare esattamente così, non andare è lì tollerabile. Le ricordo che quando si va in visita dal Papa, sono le donne si coprano io. I capelli. Le ricordo io che quando si va in visita ufficiale dal Papa, sono contrario ad andare dal Papa con le donne velate. Io sono contrario ad andare dal Papa con la testa velata. Ma lei è un somaro, scusi. Ma no, che... somaro sarà lei, no, ecco, no, maleducato. Ma lei è un maleducato, un somaro, perché, e non scusi. Si permetta, e ah, non quindi si va dal più. Papa e non ci si copre i capelli. Ma guarda che è un bel tipo questo qua. No, ma ha ragione lui, dai, su. Ah, ma dal Papa ma, non si ma va con i capelli coperti. Ma no, ma uno può ma andare... è un somaro! Non si... dal Papa, per rispetto, si va e ci si copre i capelli. Somaro! Dov'è? Chiamalo! basta. Ma chi l'ha detta sta cosa che ci si copre i capelli? Ma chi lo dice? Ma quale protocollo, basta, di cosa? Ma io ho ordinato il dottore di andare dal Papa. Ma io vado dal Papa come mi pare. E dai, per rispetto ti copri i capelli. Aspetta. No, aspetta, un caso. Scusami però, perché sennò qua io vado ai matti. No, se uno va dal Papa, lei non mi dà del tuo, mi dà del lei, perché io e lei non siamo né capelli né amici né parenti. Quindi mi dia del lei. E secondo, io con uno che mi dà del somaro non parlo. Politicamente, lei è una persona maleducata. Politicamente, ma no, questo non passa, Oh, grande ritorno alla Zanzara, mi sembra di capire, ci siamo con i collegamenti, il telefono e tutto. Vittorio Sgarbi, eccoci qui, vai. Che cavolo, come stai? Patrioti. Come stai innanzitutto, come stai? Bene, sto guardando quadri, quindi sono in ottime condizioni. Fisicamente perfetto. Oggi era il compleanno del papà, attenzione. Beh, grande applauso. Festa. Applauso per il papà di Sgarbi, 95 grande anni. Grande festa. Eccolo festa. Qua, applauso della Zanzara per... Eccoli. Com'è grande che si chiama festa, tuo padre di nome? Com'è che si chiama? Giuseppe, come me. Giuseppe Sgar, detto Nino, compleanno 95 anni, cazzo. Ma 95. 95 anni. Grande festa, capelletti. Ma la cosa incredibile è che a Rò Ferrarese è arrivato anche Berlusconi. Sì. Ma com'è possibile? Si è precipitato per... No, la cosa è questa. Allora, mia madre muore il 3 novembre. Sì. Ed era l'anima della casa, piena di energia, anche se negli ultimi tempi non aveva più la forza di prima. Sì. Mia sorella ne soffre molto. Anche tu soffri molto, anche tu. Ma lei vive per sì, anche io. Anche tu non lo lasci vedere, ma soffri moltissimo per questa cosa. Mia sorella si sentiva più come la madre che come la figlia, quindi guardava questa donna anziana come persona fragile, debole. Quindi, per esempio, adesso è al cimitero, sì, perché è andata... E allora, in questa vicenda, si inserisce la mia malattia, per cui mia sorella rischia di perdere anche il fratello, che non perde. Sì. A quel punto Berlusconi mi chiama in ospedale. Sì, questo me lo ricordo. Divertendomi, e dice: volevo venire a trovare, ma non c'è posto per l'elicottero. L'elicottero. Sì. Io invece lo sgamo subito, perché vengo a sapere dai medici che c'è addirittura un riporto all'ospedale. Poi la nebbia, la tarda non è venuto, e ha parlato poi qualche tempo dopo con me, con mio padre, per fargli gli auguri. E ti ha fatto la promessa? Ti ha fatto la promessa? No, la professione è un'altra. Lui ha letto questo libro, non chiedeci cosa sarà il futuro, con dei passi che riguardavano la vecchiaia che ci sono piaciuti. Sì. La vecchiaia intesa come una trasformazione che tu patisci quasi senza accorgersi, anche se la mente è lucida. Ha detto, verrei a trovarla per il suo 100° compleanno. Ho detto, guarda, fai uno sconto del 5%, perché può darsi che nel 100° non sapevo nessuno di noi. Beh, certo. Mio padre, né te. E a quel punto lui ha capito l'antifona e 2 giorni fa ha confermato che sarebbe arrivato. È arrivato puntualissimo. Com'è arrivato? Con la macchina o con l'elicottero? È arrivato credo con un aereo a Bologna, poi con la macchina. E gli ho fatto trovare 2 vescovi, il vescovo di Ferrara. Due vescovi? Bellissimo. Il vescovo, sì, sì. Il nostro amico Monsignor Negri. Monsignor Negri. E poi Monsignor Sciacca, che è un altro che Nuzzi ha messo nell'angolo con una storia di case, ma molto divertente, che parla latino, scrive in latino. Ma si è trovato bene con i vescovi il signor Berlusconi, pluridivorziato? Benedetti l'un l'altro, Ragazze poche, ma ho invitato qualche giovane che in qualche modo abbassava la media. Scusa però, Vittorio, ti pare normale che tu accogli in casa tua, per carità, è il compleanno di tuo padre, cioè porti, invece di portarli, tu sei sempre circolato da belle ragazze, eccetera, eccetera, sì, gli hai portato 2 vescovi a Berlusconi. Cosa pazzesca! Questo mi sembrava la cosa più ironica, però ho portato anche qualche giovane donna molto graziosa, c'era Alice, c'era... Poi questa giovane ragazza di Modena che mi aveva trovato. Vestite credo in maniera molto corretta, molto, no? Molto corretta, perché sapevano dei vescovi. Poi è arrivato Damien, che regista facendo il film su Fellini, che voleva intervistare anche Berlusconi su Fellini. Poi e che ha detto Berlusconi? Generali. Cosa ha detto? Ha promesso ai vescovi? È stato molto affettuoso. I vescovi ha fatto una storia che sarà stata registrata sul fatto che lui, benché non abbia interessi personali, è necessitato per l'Italia a fare la campagna elettorale prossima, politica, per questa ragione che ti dico, che è abbastanza credibile peraltro. Cioè? La legge elettorale fa sì che se al ballottaggio vanno il PD e Forza Italia, il PDL, rischia di vincere il PD, anche è molto facile che vinca. Sì. Se vanno il PD e 5 Stelle, vince 5 Stelle, perché la destra allora? Vota 5 Stelle. Quindi, allora lui ha in mente una cosa, che se dalla situazione depressa di Forza Italia, che sta intorno a 9-10, lui si mette in campo da solo per loro, potrebbero arrivare tra la Lega, la quella ragazza a fare il ballottaggio, a fare il ballottaggio col PD. No, arrivare a vincere al primo turno con 40, perché come sai la legge dice che al primo turno, cioè lui è convinto, basta, è convinto che loro possono vincere al primo turno. No, i numeri potrebbero essere logici. Bah, fai, ma dai, su, fai i conti, fai la Lega al 20. Ma sì, ho capito, ma insomma, dai, su, ma Lega che al 20, la Lega al 13-14, Vittorio, dai, su. Ma non vincerà mai Berlusconi col 40. Un attimo solo che ho 30 secondi, torno subito. Vittorio Sgarbi, compleanno del padre, visita di Berlusconi, poi parleremo adesso di omosessuali, froci, gay e tutte le cose che ci sono in ballo. Fa male solo a chi non sa ridere. E la Zanzara. La Zanzara. Allora, voglio chiedere a Vittorio subito se Berlusconi ha rassicurato i vescovi contro la legge Cirinnà, insomma le coppie gay, eccetera, eccetera. Se ha detto ai vescovi state tranquilli, noi non la votiamo. Ah no, ma questo non ha parlato particolarmente di questo. Più che altro è stato il vescovo di Ferrara a dire che ha suggerito ai suoi colleghi di tacere, perché la posizione migliore doveva prendere la Chiesa, che altrimenti cercando di discutere e di trattare rischia di perdere la dignità del dogma. Lui è uno molto... Ma tu lo sai, allora, secondo alcuni, sì, lo so, come no, secondo alcune ricostruzioni, la Pascale avrebbe detto a Berlusconi questa cosa, Berlusconi che si è detto contrario alla legge Cirinnà, eccetera, no? Avrebbe detto: Silvio, ti sei fatto mettere la musserola da quei bigotti del tuo partito, non hai il coraggio, sembra abbia usato in realtà un riferimento anatomico, cioè non hai le palle, non hai i coglioni delle tue idee, tu saresti un vero liberale, ma fammi piacere, ipocrita. Così la Pascale avrebbe detto a Berlusconi. È possibile secondo te? È possibile. La Pascale non ha avuto una posizione alle origini, ma poi con il tempo si deve essere molto liberalizzata. Sì. Tant'è che lei che ha portato Vladimir Luxuria da... Sì, si è diventata amica di Luxuria. È molto probabile che la sua posizione sia di un liberalismo senza dipendenze dalla Chiesa. D'altra parte, il tema dell'adozione è un tema che vede dubbi anche nel PD, quindi è difficile capire. Sì. Io ormai sono convinto che a uno che non ha né padre né madre, chiunque che lo prenda va bene. Però il tema della madre, che una volta in televisione ho raccontato con la storia di Padovini, sì, come no, certo, è un tema forte, perché sì, la madre comunque è un legame vero. Senti, ma secondo te questi qua che hanno messo, questi di gay.it, che hanno messo le figurine, le foto di quelli del PD contrari alla legge, sono dei pazzi? Cioè è l'estremismo gay? Ma no, è il fatto che essendo vincenti e sul tempo vincendo possono permettersi di fare qualunque cosa, perché qualunque posizione è bigotta rispetto a quella del liberalismo assoluto, cioè l'interesse che io ho sempre sostenuto del bambino, che sia di avere le figure del padre e della madre, è vero sul piano simbolico, però, però è della tradizione. Non è perdente, perché alla fine, quando quello è abbandonato completamente, non c'è nessuno, meglio due maschi o due donne che nessuno. Quindi trovo il fanotrofio, quindi alla fine fai un ragionamento che i cattolici arrivano qui. Ma i cattolici alla Monsignor Negri fanno un ragionamento che riguarda la struttura della famiglia, quindi anche nell'adozione l'elemento simbolico della madre e del padre. Senti, ma quelli invece simbolico, che mettono incinta una là, la Ludo in affitto, Elton John, queste robe qui, quelli che comprano un bambino, comprano quello, tra virgolette. Quello a me è sempre sembrato, ecco, l'idea è che uno che non riesce ad avere figli, sì, come a me è toccato di avere senza averli voluti, ma che è il contrario voglio, di quello che fai contrario, tu, esattamente il contrario di quello che hai fatto tu. Esattamente, è come il desiderio di avere un cagnolino, cioè l'idea di qualcosa che serve a te, non a lui. Sì. Certo che serve anche a lui, se lui è un orfano serve anche a lui, ma è una così egoistica posizione che mi è sempre sembrata sgradevole. Cioè tu devi avere, tu non puoi amarti il tuo e basta, perché devi amarlo e avere anche un bambino. È una posizione capricciosa, che può essere però di garanzia per il poverino. Vabbè, il poverino non è ancora, dici, però quello che non è ancora nato, cioè se uno fa la procreazione, come si dice, l'utero in affitto, secondo te è un obbrobrio, una forma di egoismo? No, non è un obbrobrio, ma è una forma di capriccio egoistico, cioè tu fai una cosa forzata perché vuoi avere il tuo cagnolino, il tuo Yorkshire, che è un bambino, altrimenti potresti stare tranquillo nel non averlo, perché non è che sei obbligato ad avere un figlio. Le coppie che sì, non l'utero hanno in affitto oggettivamente è un po' così, sì, è un è po', vero, non certo, è che sia forzato nella cosa in sé, visto che però... può capitare, è nell'opzione del desiderio. Cioè il povero che sta parlando, giustamente è diventato saggio, il nostro amico Parenzo, che ha una ragazza che può mettere incinta ed è a posto, non riesce a metterla incinta, allora si inventa l'utero in affitto per averlo per forza. È una specie di capriccioso vizio borghese. No, ma non lo fanno gli eterosessuali, lo fanno chiaramente le coppie gay, sì, no? Lo fanno tutti quelli che hanno lo fanno le coppie gay, perché col proprio seme uno dei due mette incinta una, paga questa qua, sì, questa qua fa un figlio. Però e... come se valuti la cosa in termini politici all'antica, la Togliatti, non lo fanno i poveri, lo fanno solo i ricchi, è una cosa da ricchi. Certo. E vabbè, ci sono tante cose. Per questo è un capriccio. Ma ci sono tante cose che possono essere un capriccio. Esatto. Avere, avere una macchina di lusso, esatto, non è necessario, però uno che è ricco se la prende. Allora, fermi un attimo, no, ma ho capito. No, no, ma è solo questo, poi a me non me ne frega più niente ormai, perché siamo comunque perdenti. Qualunque posizione astratta è perdente. Allora, fermi tutti, qualche minuto, poi torniamo con Sgarbi. Quando sento Parenzo mi fa incazzare, perché è come un'acciuga, non ha cervello. La Zanzara. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Allora, con noi Vittorio Sgarbi, stranamente in una posizione oggi di riposo, cioè nel senso non è in movimento perché è a vedere dei quadri a Padova. In Germania qualcuno propone, dopo i fatti Padova, di... Padova, ottimo. Dove a Padova? Ma che ne so, a vedere... Sono a Padova da un giovane molto valoroso, storico dell'Africa, Tommaso Peruda, che a un certo punto, avendo capito che l'università è un luogo pernicioso, ha cominciato a fare il mercante d'arte e ha un gusto formidabile per i pittori ferraresi. Lo so perché gli piace. Tommaso Peruda. Ma era al liceo classico con me questo Tommaso. Era al liceo classico con te, con Parenzo. Ma guadagno Parenzo. Guadagno o no da questo traffico? Quanti anni hai tu, Parenzo? Quanti anni hai? 30, 40 il 14 febbraio. 40 tu ne hai? 42. Forse eravate quasi a scuola. Ma era al liceo classico Titolini o Marchesi? Ma chi se ne frega? Classico. Sì, sì, può darsi che fosse. Comunque è un bravo ragazzo, simpatico, ebreo. Vabbè. Ebreo proprio marcio, no, come questo non è pure possibile. Lui, mamma. No, questo non è vero, non è possibile. Che decidono di diventarlo come Pacitucci, cioè, sarebbero così assolutamente cristiani, poi diventano ebrei. Ma ebreo, vabbè, no, fa il mercante d'arte. Ma non è vero che mercante d'arte, non è vero. Ebreo. Ebreo. Puoi dirmi che ebreo Parenzo, ebreo inventato, perché qui sono vantaggi. C'è un'economia vincente, c'è un gran rispetto. Tu dici lobby, una, c'è una lobby. Dici? Poi ebreo di sinistra come Gad Lerner, c'è cioè il massimo, che è un ebreo filo palestinese. No, quello no. Io filo palestinese no, anzi, reputo Netanyahu un pericoloso moderato, quindi no. Pericoloso moderato. Sì, no, ma scusami Vittorio, però tu mi devi dire una cosa. La questione è in Germania, a Colonia è successo quello che è successo. Alcuni propongono alla Merkel, dico, scusa, in Germania è legalizzata la prostituzione, no? Apri le porte di un grandissimo bordello di Colonia, ce n'è uno, a questi qua almeno si sfogano e non ci rompono i coglioni, cioè devi spendere... Ma non è un fatto sessuale, è un fatto... culturale. Cioè, secondo te è stato uno stupro islamico, uno stupro religioso? Sì, ma neanche ideologico. È proprio che quando tu cerchi l'integrazione e dai delle garanzie legate al lavoro, non è che gli puoi cambiare la visione del mondo. La visione del mondo di un siciliano è diversa da quella di un milanese. Poi è chiaro che se si tratta di lavoro si trova un accordo, ma la mentalità di un musulmano rispetto alle donne è che esse portano con sé la dannazione del loro corpo, che deve essere nascosto. L'ho scritto benissimo uno scrittore algerino, quale poi ieri sera ne parlavo, forse l'avete visto. Sì, a virus. Sì, è assolutamente perfetta. Cioè, secondo te gli islamici hanno, come dire, il... proprio come cultura, come cioè considerano il corpo della donna una sorta di dannazione. In questa logica è chiaro che possono anche stare tranquilli, ma non è che devono fare un grande sforzo per fare lo stupro, perché lo stupro è l'atto sessuale che nella loro mente è un atto normale, non è un atto di stupro. Il dominio della donna è un dominio a priori. E quindi da questo punto di vista, se sono molto civilizzati, se stanno tranquilli, ma se appena appena vogliono fare un'operazione così, anche dimostrativa, non è che devono forzarsi a fare i tempi. Cioè è naturale, gli viene come natura stuprare una donna, diciamo, comunque violentarla, molestarla. Come cosa propria, sì, come cosa... Sì, ma è così, ragazzi, nessuno considera... Ovviamente queste cose qui succedono anche in altri posti. Cioè, no, in altri posti, non è la Germania, ma l'articolo di... No, in altri posti, nel senso, anche gli italiani stuperano, quello è evidente, però infatti, qui c'è l'elemento religioso, c'è l'elemento della religione, l'elemento... Ma lo stupro italiano è più grave, perché è un atto che tu fai usando la violenza. Però non è violenza, è la logica. Cioè, se tu sostituisci, se per una norma uccidere è lecito, come la pena di morte in America, io non che la pena di morte è un'aberrazione, ma se è lecito tu uccidi uno e non lo metteremo mai sulla sedia elettrica, perché la legge te lo garantisce. E dunque là, in quel caso è l'Islam, la legge coranica ti consente di farlo come norma. Quindi tu ti prendi quello che è tuo e che non è più suo. Il corpo della donna è tuo, non è della donna. Ma è così, ma è chiaro che è così. Alla base di tutto c'è questo. Sono un po' teppisti, ma sono teppisti molto, come dire, spontanei. Non è un teppismo costruito volendo fare un crimine. È la riappropriarsi della propria cultura, anche se sei integrato. Perché sei integrato per i soldi, per lo stipendio, per il lavoro. ma non può essere integrato su delle basi fondamentali della tua religione, delle tue convinzioni. Senti, voglio chiederti un'altra cosa invece, che è la storia di Quarto, no? Di cui si è discusso molto, la storia di Quarto e dei grillini. Ma ti pare possibile a te che questi qua hanno fatto fuori questo sindaco che non è nemmeno indagato? Cioè... E questo è esattamente come lo stupro di Colonia. Cioè, ci sono due stupratori che sono Saviano e Grillo, i quali stabiliscono di avere proprietà del loro partito, della loro ideologia. Questa è buona, Penati è stato cacciato dal PD, però il PD non caccia nessuno. Loro invece neanche cominciano a pensare se uno è indagato o meno. Se hai il sospetto che tu sia colpevole, non hai niente, ti caccio perché sei mia. I voti li ho presi io e tu sei una stronza che io mando a fare in culo, dice Grillo, che la manda a fare in culo. Saviano ancora peggio, che non è neanche il padrone del partito. È uno che ha l'esclusiva dell'anticamorrismo. Della morale, della morale. Lui dice fuori, ma che cazzo vuoi, chi cazzo sei? Copiatore di libri, che non hai fatto nulla di originale e che hai una finta scorta perché ti devono garantire. Ma chi se l'ammazza quello? Ma chi cosa deve fare? Il povero Vittorio Pisani, capo della squadra mobile, ha fatto dire la scorta di Saviano è inutile, con cui lui fa tutta la sua campagna per dire io soffro la scorta, che ho avuto pure io la scorta, non è quando vai a scopare la scorta è sotto il letto. Quindi non faccia la vittima di niente. Ma che c'entra lo scopare? È un eroe dell'antimafia. Quindi lui deve decidere il bene e il male di Quarto. Ma che cazzo vuoi? No, ma su questo ha ragione perfettamente Vittorio. Quando ha rotto i coglioni a De Luca, dice non votatelo. Ma candidati tu. Se uno fa quattro cose buone nella sua città, che cazzo ha fatto De Luca? Abuso d'ufficio che lo fanno anche i bambini. Ha ragione Vittorio. Ma perché ti si dà tutta questa importanza a Saviano che dice che il sindaco di politica. Quarto dai, ma è la politica che è la politica che la responsabilità di fare quello che vogliono, ma approfittano del loro potere per pura intimidazione. Uno intimida perché ha l'autorità dell'antimafia e l'altro intimida perché è un padrone. Sono due islamici. Ma questo è molto interessante. Però la povera ragazza ha detto: io non mi faccio stuprare perché sono libera. Io ho preso i miei voti e rispondo ai miei elettori, non al capo massimo fascista che si chiama Grillo, che ha deciso di dominare il mondo. E l'altro che si è fatto vedere ieri, i giganti, di Goya, uno che mangia il figlio, che è Saturno, e l'altro che domina, perché arriva Saviano, perché cosa deve dire? Ma che autorità è? Si alza la mattina e dice se ne deve andare, ma vaffanculo, che te ne devi andare dove? Ma scusa, ma la cosa di Saviano della scorta che dicevi, delle trobate? No, dicevo che una volta Vittorio Pisani, grandissimo, che poi è stato cacciato in indagato, mi ricordo, il capo della scorta, ha detto la scorta Saviano è inutile, è un di più così che si dà sul piano folcloristico, pensiamo molto più a rischio noi poliziotti, cosa che io condivido subito, perché uno che dice, ma anche in Groia, che oggi ce l'ha molto ridotta, diceva peccato, non siamo liberi perché la scorta, anche Caselli decide che cosa dobbiamo fare per vedere mio figlio, dovuto stare in un ascensore, ma che cazzo rompete i coglioni, quando sei a casa tua, stai a casa tua, scopi chi vuoi, e la scorta non è sotto il letto a dire ti sposti a sinistra o a destra. Stia attento a quello che fa, ma che cazzo dicono questi qui? Scusa. La scorta è comoda per i semafori perché lo superi i rossi, altro che non rompano il cazzo. No, quello io sono vittima della scorta, vivo sotto tutela, ma vaffanculo, che non ti fa niente nessuno. Nessuno. Beh, nessuno. Diciamo, tu dici che nessuno vuole ammazzare Saviano. Ma nessuno, è anche giusto che nessuno lo uccida. Una persona che scrive, quanta gente ha scritto gli articoli contro la mafia? Voglio uccidere solo lui. Però lui ormai è un simbolo, lui è un simbolo. Copie, non lo uccide nessuno, non tira un milione di copie e lo uccidono, ma il cazzo te ne frega, tanto la mafia sa che qualcuno deve sputtanarla. Che la sputtana di Saviano, ma chi è che interessa uccidere Saviano? Ma io non lo so. Ma tu dici minacciato, ma il Ministero dell'Interno deciderà se quello se c'è un pericolo. Ma chi è il Ministro dell'Interno? Una scoreggia fritta come Alfano che deve decidere. Che ha paura della paura, perché a Biagi è toccato quello che è toccato, sa che non copri. Certo, puoi anche dargli una scorta di due persone che lo seguono. Ma no, povero me, che vivo prigioniero della scorta, che non posso disporre, non posso andare al cinema. Ma che cazzo vuoi? Vai al cinema, fatti proiettare il cinema a casa. Che cazzo vuoi? Okay, ma dove devi andare? Ma qualcuno dice... Il fattore costa €1 milione all'anno di scorta. Ma non può farsi proiettare il cinema a casa. Il Saviano costa €1 milione? Sì, la scorta costa circa 500.000, quella di seconda fascia con tre, avendo sei persone costa, lui ne ha 12 e si turna. Tu dici la gente si dovrebbe incazzare perché... incazzare, a me non me ne frega niente, ma che uno abbia la scorta va benissimo, non che faccia la vittima. Devo vivere come un prigioniero perché sono sotto la scorta, ma no, Robert Rigazzi, ce l'ho che ce l'hai. Per gli altri è uno status symbol, per te invece è una sofferenza, se è una sofferenza fai a meno. Sì, ma no, ma quello che insopporta, quello che però ha ragione, ha ragione Parenzo, però, perché il problema non è tanto Saviano che parla e dice che il sindaco di Quarto si deve dimettere. Saviano fa Saviano, ma la politica subito, appena lui dice qualcosa, dice: ah no, l'ha detto Saviano, quindi è la politica che ha abdicato al suo ruolo totalmente. Quindi proprio. Sì, ma Saviano fa lo scrittore. Poi... Scusa, no, i tre dell'Ave Maria delle 5 Stelle, come dici? I tre dell'Ave Maria, ieri gli ho mi hanno censurato ieri, questo potere, perché mi ha fatto fare virus un secondo passaggio, perché evidentemente le mie cose sono guardate. Sì? Io ho paragonato i tre dell'Apocalisse a tre di questi che stanno mascherati in. Dell'ISIS. Mondo islamico dell'ISIS. Allora ho trovato che l'accostamento era indigeribile per la loro ospite, che era un'ospite incinta, e hanno cancellato. Ma veramente? Non l'hanno tolta, perché io non posso. Io, certo che la mia era una metafora, cioè è chiaro che quelli uccidono. Ma, ma scusa, ma Porro ti ha censurato alla fine. No, ma la censura l'ho fatta per questa ragione, perché non puoi dire la metafora eliminano, ma in realtà eliminano l'eliminazione. No, ma tu scusa, ma qui io sono d'accordissimo con te, cioè la metafora ci sta. C'è un'eliminazione sostanziale, senza ragione poi non c'è un'indagine. Cioè, per fortuna questa qua ancora non si è dimessa e resiste là sulle barricate. Ma deve resistere, ha ragione Renzi in questo, perché i tre si mettono lì, tre dell'Apocalisse, abbiamo deciso di ma chi cazzo siete? Ma rispettate la democrazia, l'hanno votata, andate a fare in culo. Cioè 5 Stelle non sono al di sopra della democrazia. Non è che hanno delle regole speciali, perché noi abbiamo le regole che appena uno è sospettato si deve dimettere. Vaffanculo! La regola si chiama Costituzione, non il partito di merda che stabilisce che tu devi andare quando hai fatto una scorreggia. Non rompete il cazzo, anche per voi c'è la democrazia, e quella ragazza resiste, fa la resistenza contro tre fascisti e un nazista che sarebbe Grillo, che sta lì in alto a comandare, accompagnato dal suo collega Stalin, che si chiama Saviano, tutti e due insieme. C'è anche Casaleggio, c'è anche Casaleggio. Ma Casaleggio, poveretto. No, però voglio dire, no, ma è tutto giusto secondo me, però c'è un elemento, questi tre qua dicono che hanno deciso loro e non Grillo, c'è anche quest'altra pantomima. Sì, però Grillo lo ha dichiarato solennemente, cioè l'ha cacciata comunque, loro hanno fatto la parte esecutiva, l'ispiratore morale, no, ma la cosa è questo qui. Sì, ma la cosa incredibile è questo fatto che ti hanno censurato. Cioè, uno non può dire alla RAI, non può fare un paragone tra questi. Grillina che pone le condizioni, loro dice: se tu fai vedere la foto di questi con i tre dell'ISIS, ora io ho tolto la foto, ho fatto una seconda edizione, e anche quella andava bene, perché ho detto quei tre hanno la stessa postura. Cioè, ti hanno fatto togliere la foto dell'ISIS. Sì, ma poi quando l'ho fatta senza la foto hanno censurato anche quella. Perché l'hanno censurata? Perché non volevano turbare l'animo dell'ospite grillina. E chi era questa incinta dei 5 Stelle? È una incinta di 9 mesi. Ma ragazzi, ma sti cazzi, detto, noi però. Siamo più puri, noi cacciamo subito. Appena c'è il sospetto, non quando c'è la certezza di un sospetto. Sì, ma no. Che cazzo, ma come si fa a dire che un partito si basa sul sospetto? Sì, sì, ma anche quando c'è il reato, magari non è buono il reato. Sì, sì, ma uno metti pure che sia l'indagato, non uno è indagato. E vabbè, è già una follia. Ma addirittura questa qua non è nemmeno indagata, questa qua. Cioè, sì. Non è nemmeno indagata, è indagato. Perché il marito. Il loro metodo è un metodo fascista, sostanzialmente. Quindi il fascismo è più forte della legge. La legge è uguale per tutti. Loro dicono che è una copertura del PD, tutto questo casino. Sì, è stato fatto per aprire le cose del Partito Democratico. E quando hanno criminalizzato in quel modo quel povero De Luca, che non ha fatto un cazzo, ha fatto solo delle cose buone, criminalizzato come se fosse un delinquente, prima da Rosy Bindi, che lo mette nella lista dell'antimafia per un abuso d'ufficio. Vabbè, quello è stato condannato. Si sono creati la legge loro con il casino loro con la Severino, con quella follia della Severino. Sì, vabbè, ma quella è una porcheria, ma la Costituzione però la guida di tutti. Sto facendo adesso con AIS un libro sulla Costituzione. La Costituzione è la bellezza, la Costituzione dice che uno è colpevole quando è condannato in via definitiva, altrimenti è innocente. Va bene, ciao Vittorio. A presto, ciao ragazzi, abbracci, viva ciao. Viva la gnocca, hai portato due vescovi. Abbasso il Duce. Come abbasso il Duce? A proposito, ma sai che il PD oggi hanno ritirato fuori la storia ufficialmente della proposta di legge di Fiano, il tuo amico Fiano, di vietare il commercio dei busti di Mussolini, dei gadget fascisti? Io ne ho un certo numero, poi dicevo il Duce intendendo Saviano, e per me il Duce sono loro. Saviano, ah, beh, sì. No, il Duce buono, ma tu avrai un sacco di busti, sì, di busti di Mussolini. Teoricamente non lo potresti vendere. Ma Saviano, poveretto, dai, non entriamo nel merito di questi conati così di pensiero. pensiero deve essere integro. Questi qui non ce l'hanno il pensiero. Dai, ma si può, ma si può fare un disegno di legge per vietare il commercio dei gadget fascisti? Ma dai, ragazzi, non sanno che cazzo fare. Invece di farsi delle seghe, fanno delle leggi. Sì, dovrebbe... che sarà bene, ecco. Farsi meglio... delle seghe è meglio. Meglio farsi delle seghe che delle leggi. Ciao, Vittorio. Sì, questa è la sentenza di congedo. Viva la gnocca. Sempre, sempre, sempre. Hai portato a Berlusconi i vescovi, però ti dico solo questo. Vescovi. I vescovi a Berlusconi, invece di portare qualche gnocca, i vescovi. No, c'era qualche ragazza appena appena. Ho capito, ma insieme ai vescovi, cazzo. No, bisogna che salvi la sua anima prima di andare all'inferno. Ciao, ciao, ciao. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. La Zanzara. Solo quando una zanzara ti si posa sui coglioni ti rendi conto che c'è sempre un modo per risolvere i problemi senza usare la violenza. E dopo Sgarbi, tipi da zanzara, Carmine da Verona. Tipi da zanzara. Carmine con nessuno Verona, di dai. Questi proprio. Dimmi, dimmi. Buonasera. Allora, il mondo degli spacciatori, sì. Queste ragazze di oggi, sì, che sì. Le dicono i puritani, pippano e trombano più di tutti. Per pippare gratis, a Cruciano, trombano gratis. Se viene a Verona, te li porto a vedere io. Che cosa? Abito a Verona, lavoro a Milano, non ci metto niente a venire a prendere. E ti faccio vedere, facciamo un giro di zanzara by night. E ti faccio vedere quanti africani vendono la bamba, quante troie la pippano e quante scopano. Ma che vuol dire? Tu sei in ottambulo? Cacchio? Sì, ma Pippo, scusa, Pippo è in ottambulo. Pippi pure. Cazzo? Dai, no, ma così vai, perché alla zanzara, perché è la tua scelta, è la mia scelta. No, è la tua scelta, perché non te, ma qua... no, assolutamente, no, assolutamente. Ma quanto pippi, scusa, per curiosità? Quanto pippo? Un grammo, due grammi a notte. Che... ancora non ha pippato oggi, evidentemente. No, non ancora devo arrivare a casa, sto ancora lavorando. Stenco, ma che fai di lavoro? È lavoro. No, ho capito, che fai, spacci, che fai? No, non spaccio. No. E che lavoro fai, Carmine? Io lavoro su strada. Vabbè, se fai l'autotrasportatore. Bravo. Con la cocaina, niente, non tira più nulla. No, allora, se fai la prima botta decente ci vai, la seconda anche già dalla terza in poi, dalla terza botta in poi non vai. Ti sale la pornografia assoluta, la perversione, ma sì. non ti eccidi, non ti attinto al cazzo. Tipi da zanzara. Allora, molti mi hanno telefonato e mi hanno scritto dicendo che non può essere che uno pippi un grammo, due grammi a notte, sarebbe praticamente una sorta di cadavere ambulante. Però, ragazzi, il corpo umano qualche volta si adatta a tutto e resiste a tutto. C'è un sacco di gente magari che ha fatto così. Comunque, diverse persone hanno espresso dei dubbi sulla veridicità del racconto di questo signore. A me sembrava invece tutto vero, magari non sarà un grammo, non sarà sì, mi sembrava grammi. Molto sconnesso quel signore. No, sconnesso molto, no, mi sembrava lucidissimo molto. Invece, no, sconnesso. Lucidissimo. Ci sono altri, lucidissimo. Tutto era legato alla vicenda della signora, della ragazza Ashley, la signorina Ashley. A proposito della signorina Ashley, fra poco cercheremo di collegarci con l'avvocato del senegalese che l'ha ammazzata. Fra poco, intanto andiamo ad Alan, Bologna, vai. Pronto? Vai, Alan, dimmi. Pronto? Buonasera. Dimmi. Buonasera, Crociani, mi senti? Sì, ti sento. Ma io da giorni che sento le sue offese nei confronti di 1.600.000.000 di musulmani per... Quali sarebbero le offese, scusi? Sì, quattro stronzi che hanno fatto un atto che non... secondo noi musulmani non rappresenta l'Islam. Sì. Io sono un ragazzo musulmano, sì. Sono sposato felicemente. Ma scusa, tu sei convertito? Sei convertito o sei invece tu, che ne so, di nazionalità? No, io sono musulmano. Sì, ma di dove? Sono convertito, è un termine sbagliato. Io sono tornato nell'Islam. Che vuol dire okay. Sei tornato nell'Islam, amico mio? Perché, caro Crucciani, anche tu sei nato musulmano, lo sai. Ma vai a fare in culo. Va. Io non sono nato. Non sono nato. Scusami, mille. Scusami, ma Alan. Non sono. Non sono scusami, il vaffanculo preventivo era forse un'esagerazione. Sì, sì, tanto io sono abituato. No, ma tu. Ma non c'è nessun. Ma non c'è nessun livello culturale qui. Il vaffanculo è universale. È universale. Come cultura. Non sì, cultura, ma va benissimo, cultura. È una bella ironia anche, simpatica, divertente. Sì. Però Alan, scusa, il problema è molto semplice. Io non sono nato musulmano, amico mio. Fidati. Siamo tutti gli uomini. Sai cosa vuol dire musulmano? Cosa vuol dire? Vuol dire sottomesso alle regole di Dio. Quindi sì. Ogni essere umano nasce su questa terra. Comunque io sono nato musulmano, secondo te. Ogni essere umano nasce su questa terra sottomesso alle regole di Dio. No, io non sono sottomesso, io nasco e non sono sottomesso a nessuno, amico mio. Mi fai parlare? Ma tu sei io, no, però scusa, Alan, no, ma voglio capire una cosa. No, ma tu puoi dire no, ma scusa Alan, puoi dire quello che vuoi, ti farò dire quello che ti pare. Però la cosa che voglio capire è una: tu sei italiano o sei nato da un'altra? Spiegami questa cosa, ti sei convertito? Ma perché? Scusa, che importanza no, ha? Ma è un'importanza, lo voglio sapere, scusami, ma non c'è niente di male a dirlo, cioè, ma io voglio capire cosa c'entra questo tutto Alan, questo. Io posso essere ebreo musulmano, perché non ci sono ebrei musulmani. No, stai dicendo che sei musulmano. La cosa che voglio capire è se tu sei italiano convertito all'Islam, italiano per dire, insomma. Non sono convertito, sono tornato all'Islam. Vabbè, sei tornato, come dici tu. Sì, è diverso. È diverso. Cioè, e quando sarebbe avvenuto questo ritorno all'Islam? È dal 95-96. 95-96. Tu quanti anni hai? Sì. Ne ho 46 anni. Hai 46 anni. Dunque sei, diciamo, sei cresciuto, eri sempre islamico e non lo sapevi, ma sei tornato poi, sei cresciuto, diciamo, in una famiglia non islamica. Sì. Non islamica. Però ti chiami laica, Alan. È una famiglia laica, nessuno mi ha imposto la religione. Ma sei straniero o italiano? Cioè, tuo padre, madre, spiegami sta cosa, perché ti chiami no, Alan. Mia mamma è turca, mia mamma. Tua madre è turca, dunque c'è già qualcosa. Tua madre è turca e tuo padre invece c'è qualcosa cosa? No, ma c'è fino qualcosa 1300, di legame con l'Islam. Nel 1300 la Turchia non era musulmana, lo sai. Sì, ma tua madre però 1300, tua madre non credo che abbia 700 anni, ma perché anni, ci no? Interessa la storia di questo no, signore? No, voglio capire una cosa, non ci interessa. Allora, per... Alan, dice che tutti quanti io sono nato islamico, benissimo. Vabbè, sono nato islamico secondo lui. Allora, contento. Vuol dire sottomesso alle regole di Dio. Ma io non sono sottomesso a nessuno, amico mio. Ma no, io non sono sottomesso a nessuno, ti sbagli. Adesso, perché l'hai scelto tu. Io non sono sottomesso a nessuno, la società laica, per fortuna, non sei sottomesso a nessun Dio, lo vuoi capire o no? Rispetto la sua scelta. Vabbè, allora? Io rispetto la sua scelta. Vabbè, che ci vuoi dire su questo? Io vorrei che il signor Crociani rispetta un po' un miliardo, ma io, rispetto tantissimo, tranne quando mettete le mani nel culo delle donne. Ma perché mettete? Ma che c'entrano? Mettete alcuni di voi, alcuni tuoi correligionari. Il problema lei chi non sa ascoltare, come la Santanchè. La Santanchè è così, quelli di Forza Italia. Quando parla qualcuno, non mi lascia mai parlare. Ma no, ma tu stai parlando, stai dicendo quello che vuoi, amico ma mio. Ma non mi lasci parlare. Avanti, dimmi, che mi vuoi dire? Sopra? Che mi vuoi dire? Dimmi. Parla sopra sempre? Dimmi, Alan, dimmi. Allora, io Alan dicendo... non è un cognome... È un nome. Sì, non è un nome arabo. È quello che dicevo io. Comunque, vabbè, lasciamo. Sì, no, vabbè, come ti chiami tu ma da islamico? Che vuol dire questo? C'è un nome che hanno gli islamici sempre. Come ti chiami? Io? Mi chiamo Alan. Sì, ma no, il nome islamico qual è? Il nome islamico qual è? È sempre la stessa cosa. Vabbè, la stessa cosa. Vedete che lui non ce l'ha, va bene, si chiama certo. Samuele. Andiamo avanti, forza. Andiamo mio avanti. Mio figlio è musulmano, si chiama Samuele. Benissimo. Ottimo. Ho una figlia musulmana, si chiama Allegra. Ottimo. Allora, okay. che ci vuoi dire? Io voglio dire che lei deve portare un po' di rispetto a 1.600.000.000 di persone che sono musulmani, che non sono tutti violentatori. Ok? Certo. Vabbè, ma perché questo qua nessuno ha detto che sono tutti violentatori. Lei, caro Crociani, sai che su 10 violenze in Italia, sì, 8 si consumano dietro i muri di casa. Questo lo sappiamo, no, tutti ne parlano, non ti preoccupare che qui non c'è la censura, no. Come nei paesi perché islamici, amico mio. Quattro stronzi curdi che non sono musulmani. No, veramente non erano curdi, ma erano curdi, te lo posso assicurare, che sono curdi che non sono musulmani. Hanno fatto un atto del genere in Germania e poi l'unico paese di cui parla questa faccenda è l'Italia. Ovunque, cioè, in Francia non ne parla. Ti segnalo in che Germania, no, ma come in Germania non ne parlano? Ma come non si parla l'Italia? Ma che dici? Italia. Ma di che parli? Dici delle follie. È stato avvenuto tutti i giorni, sei musulmani. Senti, io la penso come Sgarbi, avete un'idea della donna, pensate che la donna sia di vostra proprietà. No, ma non si può generalizzare così, dai, ma perché? Perché e lei ti spiega che lei non è mia proprietà. E questo è interessante, questo programma. Sì, passami tua moglie, che ti devo dire? Sì, passami. Come si chiama la signora? Come io, che è italiana, e come la tratto? È una dottoressa, hai capito? Come si chiama la signora? Vabbè, ma per carità, la tratterai benissimo. Io la tratto da musulmano. Sì, ma lei è pure musulmana, lei? No, italiana. Certo. È tornata nell'Islam anche lei. Pure quella è tornata nell'Islam. Ah, se loro dicono certo. Tornare, nel senso che la religione vera, rivelata, è quella. Vabbè, siamo tornati. Io non mi sento, io non sono tornato nell'Islam, amico mio. Siccome lui dice che anch'io sono tornato nell'Islam. Io non sono tornato nell'Islam. Ma cosa ti cambia la giornata? Di sì. Ho capito, gli dico di sì, d'accordo. La signora, come si chiama la signora? Si chiama Daniela. Daniela, bene. Convertita pure lei? Convertita? Certo, non convertita. Tornata, scusami, per carità. Amico mio, per me convertirmi, mi potrai permettere di utilizzare la parola convertita? Però non fermiamoci a questo. Sì, fallo felice, digli che è tornata. Che bene, cambia la giornata. Anche lei tornata. A me non cambia la giornata. Se lo tornerò anch'io all'Islam, va bene. Non mi cambia la giornata. Chissà, anche sì. Malcolm X è nato schiavo in America di famiglia cattolica, è tornato all'Islam. Schiavo in America di famiglia cattolica. Quegli ebrei come li consideri tu? Gli ebrei come li consideri? Fratelli maggiori, cugini. Cugini, sono cugini. E gli ebrei, no? Gli ebrei come li consideri? Cugini, infedeli, infedeli, cugini, no? Gli ebrei? Gli ebrei sono persone come noi. Sì, un po' infedeli. Io non contro gli ebrei, io non ho niente. Vabbè, passami tua moglie, dai, cugini, passami tua moglie. Cugini, come i nostri cugini hanno sempre vissuto insieme ai musulmani anche nella Terra Santa. Vabbè. Prima dell'avvenimento dello Stato di Israele. Vabbè. Prima dell'occupazione. Occupazione, della occupazione. Gran Bretagna a sì. Quella terra. Vabbè, adesso non facciamo la storia, passami tua moglie un attimo. Alan, passami tua moglie un attimo. Te la passo, Daniela? Sì, signora Daniela, signora Daniela musulmana, attimo, convertita. Vieni, amore. Amore, sì, vieni, amore. Tesoro. Sta urlando, che fai, bambino? Pronto? Signora Daniela, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Buonasera. Salam aleikum, signora. Aleikum salam. Come le sale? Ma scusi, quando si è... Qua, scusi, convertita non si può dire. Quando è tornata a lì? No, perché... Ah, perché mio marito le dice che il termine conversione non è perché? Il termine, diciamo, corretto. Perché? Perché nasciamo tutti musulmani. Io sono italiana. Non nasciamo tutti musulmani. Mica mia. Questo questo non credo. Vabbè, loro credono così, basta, non è un ritorno. Vabbè, d'accordo. Cioè, esatto. Io sono nato ebreo e sono ebreo, però poco male. Se le fa piacere, le dico che sono nato musulmano. Cosa vuoi dire? Allora, io le dico la mia di esperienza. Scusi, signora, lei porta Daniela, lei porta il velo? No. No, assolutamente non porta no. Il velo. No. Scusi. No, io non porto nessun no, velo. No, per carità, infatti si può anche non portare il velo, per carità. Esattamente, perché tutti cosa credono? Cosa credono? Che sì. L'avvicinamento all'Islam o che comunque pregare e che uno dei pilastri... Scusi, cosa ci trova lei cosa ci trova lei nell'Islam? Per curiosità, signora Daniela, lei quanti anni ha? Io ne ho 37. Allora, lei ha 37 anni. Quando è che è tornata, è tornata all'Islam? Si dice così, è tornata. Quanti anni fa? 3 anni fa. Ma perché uno diventa islamico? Me lo può spiegare? Perché una signora, Daniela, 34 anni, a un certo punto, come dire, che fa di mestiere? Io sono una professoressa di italiano, storia e geografia. Una si converte, scusami se ho utilizzato la parola si converte, come uno torna all'Islam. Perché? Che cosa offre l'Islam? Cosa offre? Cioè, qual è il punto? Intanto io non parlerei molto di offerta, perché vabbè, ma cosa ci ha trovato nell'Islam? Ma cosa ci trova? L'offerta del supermercato. Ma no, vabbè, ma offerta, diciamo, religiosa. Okay. Ma cosa trova? Ho voluto utilizzare il termine offerta. Sì, ma cosa ci trova nell'Islam? Mi dica una cosa. Dire la mia, la serenità d'animo. La serenità. Prima cosa. Seconda cosa, Maometto, paradiso. A cui nessuno pensa, perché ovviamente pensiamo alla vita paradiso. Terrena, a quello che abbiamo qui sulla terra, capisce? Paradiso, sì, certo. Che possono essere quello, tutte le religioni però offrono questa cosa. Poi come non ho capito? Tutte le religioni offrono in teoria questa cosa. Non poi è vero che tutte le religioni offrono? No, per carità. Non è vero? Beh, perché insomma, lei mi dice che tutte le religioni il paradiso, l'aldilà, un po' tutte le religioni ne parlano di questa cosa qua. Poi non è vero, lei mi insegna che se io commetto in Italia, parlo dell'Italia ovviamente. Se io commetto un omicidio, le parlo ovviamente di uno dei massimi reati. Se commetto un omicidio, io rimango tranquillamente impunito. Beh, no, veramente. E invece? Nella mia vita terrena. E invece nell'Islam? Nella mia vita non funziona così. Ah, no. Non funziona mica così. Cioè? No, non funziona così. Perché? No, perché se lei basta andare, ecco, in Tunisia, per dire... se io sono sposato e mi separo comunque da mia moglie, sì, io faccio il carcere. Sì. Io faccio il carcere, ma questo realmente accade. Beh, ma non è bello se questo. Se non pago gli alimenti a mia moglie. Ma non è bello questo. Ma non è voi bello. Per un omicidio. Come non è vero? Cioè, nell'omicidio, secondo lei, è giusto per un omicidio, che ne so, la lo pena sa, di morte? Lo sa che la sorella di mio marito, che è separata, se il marito non paga gli alimenti... Va a finire in galera. Va a finire in galera, certo. Sì, in ma Italia, scusi un attimo, ma... E se io rubo è giusto tagliare le mani? No, non è giusto tagliare le mani, ma è giusto avere una pena certa. Una pena certa. Quello è un altro discorso, certo. Però. Vabbè, fermi ragazzi, ci dobbiamo fermare. La famiglia da Bologna, beh, la richiameremo sicuramente molto presto. Grazie signora Daniela, grazie Alan, a presto. Attento al DDT, sai. La Zanzara. I'm all right, Jack, we've never had it so good. House in Hampstead, Fallout Bunker, done everything we could. Fitted the rolls with a shatterproof windscreen soon as we heard the news. Harrods do a nice little tear gas, even a woman can use. All good men at number 10, everything's understood. Ho appena incrociato per strada un personaggio che stava registrando insulti a Parenzo ed era anche di bell'aspetto. Questa cosa vi sta sfuggendo di mano. Io vorrei sapere da Parenzo perché quando chiamano quelli che vanno a puttane ti indigni, cominci a dargli del miserabile, mentre invece quello che pippa o si fa le canne come se fosse la camomilla la sera sta in silenzio, sembra tutto normale. Luciani, ora sto per dirti una cosa che so che quasi certamente ti stuzzicherà. Sai dove è stata la mia prima volta? In Inghilterra, in un cimitero, sopra una tomba. Sai cos'è? Ho celebrato l'amor sacro e l'amor profano. Salve, sono Isabella Portentesta. Siamo la prima ONG al mondo che sostiene gli ascoltatori che intervengono in programmi radiofonici. Se anche tu vuoi sentire ogni giorno Donato da Varese, Mauro da Mantova e anche un po' Pastronzio, bene, non devi far altro che continuare ad ascoltare la Zanzara. Dillo ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi di lavoro. Più siete che l'ascoltate, più potrete ascoltare questa fantastica gente. Continuate ad ascoltare la Zanzara. Ve ne prego, dobbiamo salvare il mondo. Effettivamente, caro Parenzo, la Isabella Bossi Fedrigotti che fa quell'appello per l'ONG è un modo molto... straordinario. No, è il miglior modo per non far dare manco un euro a questa ONG. Cioè, no, se vuoi trovare il modo, se vuoi trovare il modo di... Ah, invece la voce è molto convincente, rassicurante. Convincente. Ma tu molto... non sai la gente quello che mi scrive, la gente quello che scrive su questa roba qui. Non c'è. Ma tu non c'è, hai idea. C'è proprio un modo per non far dare un euro a una cosiddetta ONG. Io non l'ho mai fatto in vita mia, per fortuna. È proprio quello di mandare in onda quello spot lì. Proprio c'è un modo, è quello. Allora, a proposito di Firenze, di quello che è successo... Oh, scusami, un momento. Sì. Nei prossimi mesi questa radio e questa azienda editoriale affronterà la nuova elezione del nuovo presidente della Confindustria. Chi se ne frega però adesso... Allora, nelle prossime ore abbiamo deciso di prendere in ostaggio, da qui al prossimo mese, ogni giorno un dipendente della cosiddetta Radio 24 in ostaggio. Per rivendicare... perché facevamo così negli anni 60. Beh, ma che c'entra questo? Prenderemo in ostaggio Barisoni, ad esempio, e in quella trasmissione racconteremo cosa si faceva negli anni 60 con gente così che si chiama Confindustria, cioè industriali sfruttatori che nel corso degli anni non danno la possibilità di fare delle pause, ad esempio pause lunghissime ai poveri lavoratori che devono lavorare. Quindi lunghissime? Ci sarà una nuova, certamente, ore e ore, su 8 ore di lavoro devi farne 6 di pausa. Negli anni 60 chi non ce la faceva, li prendevamo a calci nel culo, devi ricordarti. Ho capito, ma allora chi vorresti, caro? No, faremo una nuova rubrica radiofonica. Cioè, ti candidi anche tu a fare presidente alla presidenza della Confindustria, avendo già il diritto al vitalizio, oltre a fare radio vitalizio, ovviamente, quello che faremo faremo nella prossima stagione. Vuoi candidarti anche a candidarmi alla guida della cosiddetta Confindustria, associazione. Beh, ma non sei un imprenditore, però, cioè non sei un industriale, un imprenditore, un manager. Sono, come no, imprenditore del vitalizio, più imprenditore di me. Sono un imprenditore del vitalizio. Sì, questo è vero. Sì. E a gente come te, carogna fascista, negli anni 60 ti avremmo preso al terzo piano della facoltà di filosofia, sbattuto prima al muro, messo in mutande e vilipeso. Formidabile quegli anni, formidabile. Un cazzo. Anni 60. Vabbè, ragazzi, cerchiamo di metterci in collegamento con l'avvocato del signor. Ah, com'è che si chiama sto senegalese? Pape Diouf, Pape Diap, Pape Minchia, non lo so. Anche cioè, quello, confesso. Quello che ha ammazzato, Sheikh si chiama. Quello che ha ammazzato, ragazzi, ha ammazzato una. Reo confesso. Sì, reo confesso. Signor Sheikh, il senegalese Sheikh. Adesso vanno ricostruite le l'avvocato, dinamiche. Sì, vediamo cosa è successo dall'avvocato, sentiamo. Pronto? Voce? Sì. Avvocato, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. Mi dica, buonasera. Come sta, la disturbo? Mi dica, lasci perdere, disturbo. No, io solo due minuti, perché volevo farmi ricostruire da lei, perché è importante, la dinamica, secondo naturalmente la versione del suo assistito, del senegalese, la dinamica della morte della ragazza. Allora, il discorso è questo, si conoscono in un club, in questo club che si chiama Monte Carlo, e lì consumano cocaina e bevono molto, dopo aver già bevuto tanto nel pregresso. Verso le 6:30 il mio cliente decide di andare via, la cocaina gli viene fornita da un albanese, da un ragazzo albanese. Cioè non ce l'ha lui, non fa lo spacciatore lui. No, lui non fa lo spacciatore, assolutamente no. Lui decide di andare via, ma purtroppo si sente male e quindi ecco si ferma lì nel locale e fuori del locale praticamente ha degli ultimi vomito e sta male. E faceva uso di cocaina continuo, quotidiano? No, assolutamente no. Solo quella sera ha preso la cocaina. Tant'è vero, si è sentito male. La ragazza Ashley lo vede e gli dice: guarda, vieni con me, ti accompagno a casa io, eccetera, eccetera. Arrivati a casa, la ragazza invita il ragazzo a salire sopra e lì c'è una prima uscita del ragazzo di casa, perché va a comprare le sigarette. Le sigarette. Ma scusi, non stava male? Si era ripreso allora? Sì, dopo una mezz'oretta se l'ha ripresa, hanno fatto circa una mezz'oretta di strada a piedi. Allora, praticamente lui va a comprare le sigarette e poi risale in casa. E risale su ed hanno questo rapporto sessuale consenziente. Lei, finito il rapporto, lo invita ad andare via velocemente perché teme l'arrivo del fidanzato. Lui si incazza e gli dice: perché mi sento, e questo lo dice in francese perché lui parla il francese e un po' di italiano, mi sento utilizzato, ha usato proprio la parola utiliser, come un cane. Come un chien, lui, come un chien. Ecco, esatto, e si è arrabbiato, ma comunque si è rivestito piano piano ed è andato fuori. Lei aveva furia di mandarlo via, lei gli dà una spinta per buttarlo fuori di casa e lo fa sbattere allo stipite della porta. Cioè la prima spinta l'avrebbe data lei? L'ha data lei. Secondo la versione di Sheikh. Probabilmente non aveva un grande equilibrio questo ragazzo, ha battuto allo stipite della porta. Lui gli dà un pugno sulla nuca dalla parte sinistra. La ragazza va in terra, si rialza e gli dà un'altra spinta per allontanarlo. Lui a quel punto gli dà una spinta, cadendo, batte la testa sul pavimento. La morte succede per queste due fratture. Cioè la morte per due fratture. E invece la procura sostiene, gli investigatori dicono che è stata strangolata. Il ragazzo nega, lui la prende, la porta sul letto e la ragazza è viva quando lui va via. È viva perché la lascia dicendo... Beh, no. Perché dopo lui entra nel panico? Secondo me entra nel panico perché la vede assolutamente confusa. Ho capito, però se uno pensa che è viva, non è che prende il cellulare e entra nel panico. Scusi, però mi perdoni. Se io sono un assassino, cosa faccio? Ci metto la scheda SIM e mi faccio rintracciare? Senta, quanto rischia se ci fosse invece la vostra ipotesi, cioè omicidio, come si chiama? Per l'intenzionale siamo intorno ai 12. 12. 12. 12. Diciamo che con la buona condotta in 7-8 anni potrebbe essere fuori. Potrebbe essere fuori. Tenga conto che non è un immigrato clandestino. Ecco, appunto. Italia con visto, va bene. Che però è scaduto, visto turistico che è scaduto. Di tre mesi, per quello che ne so io, si doveva sposare. E quindi ecco. Si doveva sposare? Si doveva sposare, sì. Con chi? E questo non lo so. Con un'italiana? No, penso con una connazionale. In Italia? In Italia. Che comunque era irregolare, era scaduto da quanto tempo questo permesso? Un mese. Vabbè, comunque da un mese era clandestino, c'è poco da fare. Però, scusi, non era arrivato con i barconi, Va bene, grazie avvocato, grazie. Salute. Arrivederci. Ma ragazzi, io ho molti dubbi su questa ricostruzione. Poi naturalmente questo, della difesa, questo si deve difendere e dice che c'è stata una specie di colluttazione praticamente tra i due. Ci saranno i periti che una colluttazione, quella è caduta e si è rotta l'osso del collo, diciamo, questa è la sostanza, dice l'avvocato. Però è non chiaro, c'era la volontà di uccidere, questo dopo. Che devi fare? Che devi fare? Chiudi tutto, va? No, aspetta, mancano ancora 5 minuti. Ma che chiudo tutto? Chiudi, che sei impazzito? Ma che chiudo? La gente, sei... la gente voglia tornare a casa. No, dalle vi devo famiglie. Dare due notizie vi devo dare. Due notizie molto importanti. Assolutamente. Due notizie. Allora, in un comune tedesco, il sindaco ha vietato la piscina ai profughi maschi. Sì, questo avevo visto. Ai terribile. Profughi maschi. Pazzesco, pazzesco. Ma che pazzesco, ha fatto benissimo. Ha detto una scelta sofferta. C'era il pericolo che questi qua, insomma, toccassero altri culi dopo quelli che hanno già toccato. Scusa. Alcune donne hanno lamentato molestie, peraltro. Bornheim, 50.000 abitanti vicino a Bonn, e il comune ha preso questa decisione. Cioè, non c'erano denunce, ma c'erano state proteste, dimostranze, e quello ha detto la piscina vietata. Ma insomma, ma se uno può evitare dei guai, li può anche evitare, no? Bello, cioè, certo, vabbè. Però e adesso allora... la psicosi dell'immigrato che ti tocca il sedere, dai. Ma scusa, ma se ci sono state delle proteste e delle dimostranze... Ma sì, ma ho capito, ma è come dire che se vai sull'autobus perché l'italiano non tocca il sedere, ragazzi, dai, su, ma... Una roba incredibile, dai. No, ma perché attribuire ancora? Ma a un se in quel paese ci sono state delle proteste, sono dei criminali. Quelli di Colonia sono dei criminali. Comunque, un'altra notizia è questa. Renzi, siccome vuole cavalcare ovviamente alcuni argomenti, dice che andranno licenziati entro 48 ore i furbetti del cartellino, non solo quelli di Sanremo. Sì, ma non ha nessun potere per farlo, capito? Cioè è un proclama, è come dire voglio licenziare in 24 ore quelli che fregano le valigie, sì, agli aeroporti. Il problema della, ma no, della... non si può fare, dunque è inutile che lo dici. Se tu beh, dici... verranno sospesi, questo sicuro. Ma non puoi dire, il Presidente del Consiglio non può dire entro 48 ore farò la proposta di licenziare. Sì, entro... non ha nessun potere. Ma non ha nessun potere, non puoi mettere per iscritto nessuna proposta, perché non hai nessun potere di licenziare entro 48 ore. Che fai, un decreto? No, ci sono delle norme che purtroppo vincolano, tu li puoi licenziare, questi poi fanno ricorso dicendo no, non c'è ancora la sentenza definitiva, non è vero che ho timbrato, voglio reintegro, un qualsiasi giudice reintegra. Dunque Renzi non può fare una mazza, non può fare niente se non fare proclami inutili per cavalcare una indignazione giusta peraltro dei cittadini nei confronti di questi furbetti del cartellino, no, che vanno lì, timbrano e vanno a fare la spesa, vanno a prendere il caffè, vanno in palestra, eccetera eccetera. Dai, Davide Milano, vai Davide. Luciani, io confesso. Dimmi. Rinuncio. A che cosa? Alla cittadinanza italiana, nazionalità, tutto, vi ridò i documenti. Ma perché? Chiamate Mattarella. No, mi sono rotto i coglioni. Basta. Perché dici? Sono 25 anni che lavoro, mi spacco il culo, ho fatto la UC, ho fatto il militare, ho pagato le tasse, ho un reddito alto, ho pagato le tasse fino al 60%, basta, sì. Non ce la faccio più. Vi ridò i documenti, chiamate Mattarella, organizzate tutto, io vado lì, gli riporto la carta d'identità. Il tesserino sanitario che non serve un cazzo. E da qualche parte lo devi, però devi stare. Voglio fare la polide. Io voglio diventare apolide. Basta. Apolide. Non voglio più essere rappresentato da D'Alema, da Berlusconi, da tutti quelli che sono venuti dopo, da Razzi. Non ne faccio più. Vi ridò i documenti. Basta, no, Davide, io posso capire l'incazzatura quando uno sente certe notizie, addirittura il carrozzone della Rai che mantiene Rai Expo oltre l'Expo, altra notizia incredibile uscita oggi credo in prima pagina sul Fatto Quotidiano, cioè ancora ci sono quelli che lavorano per Rai Expo, Luciani, che già è una follia in partenza fare una sezione speciale della Rai che si occupa di Expo, follia totale. In più addirittura ci sono alcuni contratti fino al 2017-2018 mentre l'Expo è finita a ottobre, ma lasciamo perdere queste follie. Ti capisco Davide, organizzate quando... Vi do indietro pure la lingua. From now on I only speak English. O je peux parler français, ma je refuse d'être italien. Beh, Davide, mi hai dato una grande idea, quello di rifiutare la cittadinanza italiana. Però non so nemmeno se si possa fare, cioè diventare apolidi. Può essere pure che si possa fare. Non si può essere. Dovete perorare la mia causa. Io conto in Parenzo che è potentissimo, è attiguo alle lobby gay ed ebraiche. No, gay no, ebraiche sì, ma gay ma. No, gay no. Lui è un contrario, vabbè, lui fa finta, ma è potentissimo. Attenzione, è un uomo alla potestà potentissimo. È simpatico. Io mi affido a Parenzo. È simpatico come un gay. gatto nei pantaloni, ma è simpatico. Ma non è adesso, gatto nei pantaloni, gatto nei pantaloni, detto, a qualcuno può piacere. Ha detto semplicemente che vuole rinunciare alla cittadinanza italiana. A cui piace avere un gatto nei pantaloni. Ma no, ma vuole semplicemente rinunciare alla perché si è rotto i coglioni. Ma io lo capisco. Ne faccio più. Quando accendo il televisore voglio sentire qualcuno che mi parla della Germania, della Francia, della Spagna, del Paraguay, dell'Uruguay. Non voglio più stare qua. Basta, ma non voglio più. Ma qual italiano. È la cosa che è la goccia, famosa goccia che ha fatto traboccare in il vaso? Questo grido di dolore, chiudiamo qui. Buon weekend. Questo grido dai, di dimmi, dolore. Dimmi qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, amico mio. La goccia che fa traboccare il vaso tutti i giorni è sentire le notizie al telegiornale. Non puoi più andare per strada. Non puoi più fidarti della sicurezza pubblica. Non puoi entrare in un ospedale. Entrano le donne e vengono uccise da medici incapaci, tutta questa roba di un qui. Sistema sanitario incapace. Non puoi lasciare una figlia gira per strada. Basta, ne faccio più. Voglio ridare i documenti. Basta. Ciao Davide, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, viva la gnocca. Sì, questa è la sentenza di congedo. Viva la gnocca. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.